Tu e Parenzo sembrate a volte i dereggi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Detto paese che va usanza che trova, qua esiste l'usanza che Giuseppe Cruciani ha diritto di prendere in giro Padre Eterno, Madonna, tutti hai diritto. Io non sono d'accordo che sono molto religioso, ma tu hai diritto. Ragazzi, volete incazzarvi subito? Volete incazzarvi subito in apertura di trasmissione? No, aspettiamo un attimo. Li vogliamo fare incazzare subito? Ci sono un cospicuo numero di persone, di deputati o ex deputati, soprattutto ex deputati o senatori, i quali condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, spesso corruzione, finanziamento illecito, frode fiscale che non è contro la pubblica amministrazione, ma è comunque contro lo Stato, prendono lo stesso il vitalizio. Anche vitalizi, a parte Berlusconi, ovviamente frode fiscale, il vitalizio di oltre 8.000 euro dell'Utri, il mio amico dell'Utri, 4.400 euro, concorso esterno in associazione mafiosa, Previti, corruzione in atti giudiziari, 4.235 euro, c'è una lunga lista sul Fatto Quotidiano, il famoso De Lorenzo, te lo ricordi De Lorenzo? Come quello no? Della sanità, sì, finanziamento illecito, scandalo della signor De Lorenzo, che non so se sia ancora su questa terra, sì, credo di sì, no, non voglio, per carità, sulla morte non si scherza, signor De Lorenzo, no, credo che sia, no, boh, non mi ricordo. 4.000 euro, oltre 4.000 euro. Signor Bonsignore, Bonsignore. Vito? Signor Vito, sì, Bonsignore, eurodeputato. Parlamentare, già eurodeputato. Già eurodeputato. UDC. Tentata corruzione, 3.000 e rotti euro. Ma è tentata corruzione, dai. De Michelis, oltre 5.000 euro al giusto, mese. Giusto. Alfredo Vito, doppio vitalizio, vitalizio, 4.540. Alcuni sono stati interrogati, diciamo così, come dire, intercettati da qualche trasmissione nei giorni scorsi. C'è anche Sciascia, te lo ricordi, uomo Mediaset? Io conosco Sciascia. Tu conosci lo scrittore Sciascia. Lo scrittore, il radicale, quel Sciascia conosco. Sì, il radicale, sì. Altri... A proposito, ci sono notizie del figlio di Pannella, del figlio segreto di Pannella, no? T'ha chiamato qualcuno? www.figliodipannella.it. Ah, c'è la cosa. Vuoi il digiuno? Alle volte digiuni? Alle volte digiuni? Sei a favore dei Falun Gong? Vuoi il Tibet libero? Allora forse, se vuoi anche la eutanasia, la dolce morte, sei contro la partitocrazia, Mattarella e il potere dei partiti, allora forse sei figlio di Marco Pannella. www.figliodimarcopannella.it. Radicali italiani. Emma for president. Nuovo appello di Pannella per cercare il figlio. Cioè, se hai tutte queste caratteristiche, no, insieme. Io non cerco, è lui che cerca, insomma, di sì, capire se è radicale, ma liberale. Ma capisci, Marco, liberista, che hai gettato nel panico un ragazzo, un giovane. Ma non è Don Benedetto, Benedetto Croce, è Pasolini. Quando abbiamo fatto con Cossiga, ministro degli interni, abbiamo detto Esperanto libero, Falun Gong. Ancora Tibet, Dalai Lama, libertà, eutanasia, Monicelli, www.lucacoscioni.it, radicali. Cosa è incredibile? Cosa cazzo c'entra? Guardate, impazzisce. Che c'entra col fatto che hai rivelato di avere quasi due figli? D'uno, no, forse due? Tu hai detto basta, noi, dai. Cicciolina, voi, radicali, eravamo liberali, libertari. Vabbè. Del Mossad. Basta, Pannella, chiudete il microfono. Ucraina, chiudete libera. Kiev, libero. Ma che ora c'entra il figlio? Ora, libero dal Tibet. www.figliodipannella.it. Vabbè. Sciascia, che non è quello, non Leonardo. Sono no, no, è lui. Non sono, Sciascia, da... poi tra l'altro, non sono d'accordo con l'abolizione del vitalizio, dai, su. Però è corrotto, alcuna gente la guarda, ha ammesso di aver fatto recapitare 100 milioni di lire. Le riabilitazioni. Sì, ma c'è un dibattito in corso che sostanzialmente cancella il vitalizio agli ex parlamentari condannati in definitiva. Beh, d'accordo o no? No, non sono d'accordo. Perché altrimenti perde il vitalizio quando esce dal Parlamento. Ma non mi frega niente. Che gli frega del vitalizio, signor Sciascia, ci avrà altre entrate, altri soldi, comunque è contrario all'abolizione del vitalizio per i condannati. E devo dire la verità, i 5 Stelle stanno presentando disegni di legge, stanno rompendo i coglioni alla presidenza della Camera, alla presidenza del Senato per ottenere questa cosa qui. Dunque, avanti, avanti tutta, avanti tutta. Mentre la Lega ce la sta mettendo tutta per... perdere in Veneto, per perdere in Veneto. C'è Tosi, minaccia Sfracelli se non verrà rispettato sul territorio, e c'è Salvini incazzato come una biscia, incazzato come una biscia, come una biscia. Chiunque non è d'accordo con Zaia, dice il dictator Salvini, beh, insomma, si accomodi. Non esiste nessuna doppia candidatura. Il candidato era e sarà Luca Zaia, il governatore uscente, il più amato d'Italia, e rientrante è Luca Zaia. Chiunque non è d'accordo ha un mondo davanti a sé che non è in Lega, quindi non è un problema personale, un problema politico. C'è il mondo con Luca Zaia, se qualcuno non condivide questo mondo, fa altre scelte. Hanno recapitato dei proiettili al benzinaio. Famoso benzinaio Stacchio, che ha preso a fucilate un rapinatore, eccetera, eccetera, e al gioielliere dove è stata fatta la rapina, il famoso Zancan. No, buono, no, buono. Ospite questo. Alla Zanzara anche lui tempo fa. La cosa è avvenuta tra l'altro in diretta televisiva ieri sera a Quinta Colonna. Signor Poletti c'era che combatteva. Beh, come no, c'era. Certo. Beh, per forza combatteva, signor Poletti. Roberto Zancan ha trovato nella cassetta della posta di casa sua una lettera, una busta bianca che abbiamo visto io e il sindaco personalmente, con due proiettili, uno destinato a lui e uno destinato al benzinaio. La famiglia Cassollo, la famiglia Romma, Rom nomade quello che è, famiglia di colui il quale ha preso ed è morto dopo aver preso la fucilata dal benzinaio. La famiglia Cassol, beh, insomma, utilizza dei... beh, va all'attacco, la famiglia Cassol, famiglia nomade all'attacco. Beh, soprattutto uno che dice, no, senti, gettate merda ogni giorno su di noi, quale rapina, della gioielleria non me ne frega un cazzo. Questo dicono i signori Cassol. Buongiorno. Ancora qua siete? Continuate a buttarci addosso merda, continuate sempre quello, ogni giorno, Rete 4, Canale 5, sempre. Rapida, dove è stata la rapida? È stata la rapida. E allora? Hanno ammazzato gente, hanno sparato, hanno fatto. Non so, che cazzo hanno fatto? Si sono sparati col benzina. È stato quell'altro che lo hanno ucciso. Devo mettere proprio nei panni delle persone, quelli lì chiudono la gioielleria. Me ne frega un cazzo a me. Cioè, ma se tu dici a me che me ne frega della gioielleria, la gente si arrabbia, quello ti dico, quello comunque. Ma me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo della gioielleria. Beh, devo dire che non fanno niente per risultare simpatici questi signori Cassol, soprattutto dicendo quale rapina, amico mio. C'è uno della tua famiglia che è morto, che si è presentato lì con la pistola e gli altri pure erano armati, quale rapina? Cioè, non è morto nessuno, certo è morto quello perché, come giustamente, ripeto, ha detto Feltri, un incidente sul lavoro. Se uno va a fare la rapina, pistola in pugno, ti puoi aspettare che qualcuno ti spari, ti puoi aspettare, o no? Vabbè. Allora, nei giorni scorsi Mario Capanna, ospitato da Rai 1, ha pronunciato la seguente frase sui giovani e la pensione. Sui Mario Capanna. Vabbè, tu sei tutti in realtà. No, cioè, tutti un cazzo. Comunque, sentiamo la frase di Capanna, frase che ha fatto incazzare un sacco di giovani, un sacco di gente che ci ha chiamato. Arrabbiatissima, ma Capanna se ne frega. Allora, io trovo che non sia assolutamente giusto che i trentenni oggi hanno una prospettiva di povertà, perché andranno con il contributivo e prenderanno a 70 anni 500 gli euro. Gli sta bene, per... e dopo spiego perché. No, guardi, mi gli sta finire, bene, bravo, ma come gli sta bene? Dopo spiego perché. Beh, sì, guarda, sì, guarda, sì, perché gli sta bene? Gli sta bene, perché gli sta bene? Dopo spiego, lo spiego subito. No, spiegalo subito, ma riprendi. Perché io non sopporto un giovane di 20, 22 o 18 anni che non lotti. Che cacchio stanno facendo i giovani oggi? Mario Capanna, eccoci qui! Ha ragione, eccoci però. Qui. Ha ragione. Allora, mi rivolgo direttamente ai radioascoltatori. Sì. No, come? Diciamo anche noi, però. Che con lo zanzariere di Radio 24, alias Cruciani, abbiamo stabilito un patto. Assolutamente, patto? Sì. E adesso io parlo per un minuto e 25 secondi senza interruzioni. Sì, sì, certo. Alla prima interruzione io metto via la cornetta. D'accordo, però, posso dire una cosa? Che posso scusami dire una cosa? Un attimo, quale aspetta, cornetta? Aspetta. Che comunicato è questo? Cos'è? Aspetta, aspetta, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Io trovo questi patti assurdi. Cioè, signor Capanna, un minuto e 25, perché io l'altro giorno ho detto che era una vergogna quello che lei ha detto, cioè che i giovani non c'entrano niente, ma siete stati voi a è argomentato in modo falso e volgare per un minuto e 25. Ma io faccio il conduttore radiofonico, faccio il conduttore radiofonico. No, se no vi mando quel paese subito. No, va, vada, vada, vada. Rispettate o no? Vada diretto. Allora, Cruciani, dopo aver riportato la frase, ha detto: dove cazzo ha lottato Capanna? E si è permesso di fare questa domanda a me. Sì. Siccome Cruciani nel 68 aveva 2 anni, sì, probabilmente non sa niente di quanto è avvenuto intorno a quel periodo. Allora consiglio al buon Cruciani di leggere l'ormai celeberrimo libro, dopo il lancio di Gilletti, scritto da Romolo Perrotta, dal titolo Mario Capanna, storie di un impegnato. Ma chi è Romolo? Romolo che? Silenzio, senza interruzioni. Ma che è? Dictato. Quindi primo, che così può imparare tutta una serie di cose. Ma perché silenzio? Scusa. Secondo, aspetta. Cruciani concludeva dicendo: la lotta un cazzo. Sì. Bene. La mia esperienza e soprattutto l'esperienza della storia insegna che senza lotta di individuale e collettiva di milioni di persone non si ottengono conquiste civili e sociali ed economiche. Non è vero. Ecco perché ho detto ai giovani: guardate che se voi non lottate adesso che siete giovani, appunto, vi troverete una pensione misera, meno 10, e quindi non si capisce 9. Perché non vi stiate mobilitando. Allora, 8, questo paese, 7, e ho concluso, sì, non avremmo avuto lo statuto dei diritti dei lavoratori. Vabbè, questo che c'entra adesso? La liberalizzazione dell'accesso alle università. Vabbè, è finito il tempo. Il divorzio, l'aborto, e potrei continuare fino a domani mattina. Allora, innanzitutto, chi era quell'autore? Chi era l'autore lì del libretto? Del libretto. Un busto come Cruciani ignora la parola lotta. Benissimo, ignora la parola lotta, perché con le lotte e con le manifestazioni potevano andare bene nell'Ottocento, ma ormai non servono più a una mazza. Però anche negli anni 60, gli anni 60 hanno rovinato questo paese. Il 68 ha rovinato il paese, ha rovinato il paese. Anche lei non si lamenti se avrà una pensione. Ma questa siete stati voi a fottere la pensione ai giovani, dando troppe pensioni a voi. Però siete stati voi. Anche il naso, ci anche scusi, il naso. Capanna, siete stati voi a rovinare le pensioni dei giovani prendendovene troppe. Con i metodi assurdi. Cruciani, vede, ascolti. Lei non si rende conto, ma è diventato insieme a Gilletti, Gilletti. Radiofonico, plus quello televisivo, l'emblema del giornalista oclocratico. Come? Aspetta, me lo spiega dopo il traffico, però è finito il tempo. Dopo il traffico mi spiega tutto, soprattutto mi spiega perché lo chiama Gilletti ogni volta con due L. Quando è chiaro che è Gilletti, non credo che lei sia pagato dalla multinazionale Gillette, non credo proprio, sarebbe clamoroso. Senza interruzioni. Allora, di nuovo la frase di Capanna su Rai 1? Rai 1 l'altro giorno sui giovani, la gente imbufalita. Di questo però Capanna deve rendersi conto, che la gente, dopo questa frase sua, secondo la quale i giovani non si sarebbero battuti abbastanza per le loro pensioni, la gente è incazzata, perché il sistema non l'hanno creato i giovani di adesso, che magari saranno pigri o quello che volete, ma non, questo sistema assurdo per cui probabilmente non si avrà nessuna pensione fra qualche anno, l'avete creato anche voi. Questo è il punto. Comunque la frase sotto accusa è questa. Allora, io trovo che non sia assolutamente giusto che i trentenni oggi hanno una prospettiva di povertà, perché andranno con il contributivo e prenderanno a 70 anni 500 gli euro. Gli sta bene, e dopo spiego perché. No, guardi, mi gli sta bene. Finire, ma come gli sta bene? Dopo spiego perché. Sì, sì, perché gli sta bene? Gli sta bene. Gli sta bene. Perché gli sta dopo bene? Spiego, lo spiego subito. No, spiegalo subito, poi riprende. Perché io non sopporto un giovane di 20, 22 o 18 anni che non lotti. Che cacchio stanno facendo i giovani oggi? Allora, innanzitutto ci vuole una spiegazione, Capanna. Che cosa significa oclocratico? La oclocrazia. Cioè, lo so che posso cercare. Siete di una ignoranza. Ma no, ma no, io lo so ma... cosa vuol dire, ma non importa. Certo, è certo, perché non studiate un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? No, è questo. Scusa, che c'entra. Capanna. Dai, su. Abbiamo fatto il liceo classico tutti. Ma perché? Non ho capito. Giletti allora, che è ignorante. Spiego. Giletti è ignorante? Allora vi spiego. È oclocratico anche lui. Ma che vuol dire? E chi è per il disordine politico? No, no, fa parte di democrazia, aristocrazia, vuol dire potere. Oklos. Oklos, dal greco antico, significa sì moltitudine e folla, ma soprattutto disordine. Turba. Cioè colui che inzilfa la turba, che già di per sé è avvelenata e non ha perso il ben dell'intelletto, non ragiona, e quindi la subilla affinché sia sempre più ignorante e turba. Questo è il vostro mestiere, voi non ve ne rendete conto, ma è così. Adesso vabbè, sobbiliamo la gente noi contro... No, non la gente, la turba, diversa. Ma lei quanti anni ha lavorato sul serio? Guardare il dizionario Treccani. Va bene, sì, io sono ignorante, ma per fare i conduttori radiofonici non bisogna essere queste cime come lei. Certo, non bisogna... Si vede poi il livello culturale. Sì, anche, ma infatti. Ma come dici? Beh, certo, è tutta colpa ma nostra. Ma c'entriamo noi? Scusi. No, ma avete le vostre responsabilità. Signor Capanna, quanti anni ha lavorato lei effettivamente? No, mi deve dire la verità. Quanti anni ha lavorato? Lasci perdere il Parlamento. Allora, io ho fatto il meccanico. Quanti anni? Fino a 23 anni. Quando studiavo al liceo, all'università. Vabbè, ho capito quello. D'accordo. Quanti anni ho sul serio? Ho fatto il barman. Le fatto il barista, addirittura in Germania. Vabbè, 10 anni ha lavorato, su. Dopodiché, dai. Dopodiché ho passato quasi 20 anni. Fatto politica, a diverso dai. Questo livello nelle istituzioni. Beh, fatto politica, dai. Sì, ma sul serio ha lavorato. Ma ha fatto politica tutta la vita. Sul dai. Serio, lei ha lavorato meno di 10 anni, dai, su. Meno di 10 anni ha lavorato sul serio. Ma come ti permetti? Ma se ti ho detto che ho passato quasi 20 anni del lavoro politico all'interno delle istituzioni. Vabbè, ma quella è un'altra cosa, no. Quello è un altro discorso. E ti aggiungo che sono andato in galera per le mie idee. Ma per che le galera, ma sì, ma che lotte volte. Studentesche, no? Quando... ma avrà tirato, avrai tirato, avrai tirato, Mario, avrai tirato qualche, avrai tirato qualche sasso alla polizia, non so che hai fatto, dai, no, su. No, Cocchino, no. Ma che avrei fatto qualche cosa, ma comunque. Vabbè. Comunque io voglio capire, Giletti, ma perché, lo chiami, libro. Perché lo no, chiami con il due libro L? Che ha lanciato. Aspetta, Giletti, non ho capito, no, io. Ma Giletti, guarda, Giletti. Ma chi se ne frega, roba vecchia. Bene come assonanza. Perché? Ma poi credo anche per una motivazione mia inconscia. Perché? Che siccome Giletti è niente, Giletti. Io gli aggiungo una L e lo faccio sembrare qualcosa. Ma scusa, è niente, ma è un conduttore bravissimo, no, della ma come Rai. Si chiama l'autore di quel libro su Capanna? Il consiglio d'amministrazione della Rai lo ha multato. Vabbè, ha multato così, vergogna, proprio, vergogna. Bravo non è. Ma no, ma come? È bravissimo, un bravissimo conduttore. Fa ascolti pazzeschi. Una mega multa si è beccata. Ma perché la Rai? Non si possono buttare libri per terra. Il presidente della Rai si sarà scandalizzato, la signora della Tarantola, dai, su. Comunque, io voglio capire una cosa. Al di là di questa follia che hai detto dei giovani che non combattono, mentre l'avete rovinata voi la pensione ai giovani, l'avete tolta voi la pensione ai giovani. Ma che bischerate stai dicendo? Sì, sì, con i provvedimenti che avete fatto, cui hai contribuito, perché voi vorreste la pensione alta per tutti. Ti do un altro elemento che così colmate un pochettino la vostra ignoranza. Sì, sì. La intera somma rivolta al Parlamento e agli enti locali, quindi consigli regionali, che vanno in stipendio per gli eletti e in pensioni, il cosiddetto vitalizio, che cos'è? Voi non lo sapete, ammonta allo 0,1%. Ma che c'è? E niente, no, un momento. Quando abbiamo deciso, questo governo di idioti, ha deciso di comprare tutti gli aerei da bombardamento F-35 che costano 100 milioni ma quelli servono, euro, Mario, e che il Pentagono per primo dice che sono obsoleti. Cioè stai dicendo che stipendi, aspetta, che la cretineria. Cioè tu stai dicendo che stipendi, ho capito, tu stai dicendo che stipendi e vitalizi sono un nulla rispetto alla, alle spese pubbliche. 0,1% dell'intero bilancio. Senti una cosa, ma tu sei d'accordo? Sei d'accordo? Sei d'accordo? La vostra campagna oclocratica. Ma che campagna? Ma semplicemente ridere. Vabbè, ma sei polli. Sì, polli, sei un privilegiato, sei un privilegiato e non lo vuoi ammettere, sei un privilegiato. Senti, un po' privilegiato, Mario, sì, Mario, scusa un attimo, tu sei a favore del mantenimento del vitalizio per i condannati? Beh, in linea, come dire, da Chito la cosa non mi piace, quindi non sono favorevole. Però, torniamo al punto... No, è un diritto anche quello, io gli voglio questo diritto, scusa. No, il problema qual è? Vedete come, vostro malgrado, portate acqua al mio mulino. Cioè? E io sarò lieto di riparlarne con voi... Dopo la sentenza del TAR. Sì, d'accordo, però io voglio sapere, sei d'accordo per mantenere il vitalizio? Pronunciamento della Vabbè, Corte sei d'accordo, conti. Sei d'accordo nel mantenere vitalizio a per De Michelis? Ti ho detto di no, ti ho detto cioè, di lo no. Toglieresti, lo toglieresti. Ma il problema qual è? Il problema è che quando uno viene eletto, viene istituito un patto tra lui e la istituzione. Appunto, allora sei favorevole a mantenerlo, non dire stupidaggini. Sto semplicemente fotografando la situazione affinché voi capiate qualcosa. Sì, vabbè. Perfetto, perfetto. Un patto che dice, mentre tu sei in carica ti do botte, dopodiché, avendo rifatto delle trattenute, ti do un vitalizio al compimento dei 60 o adesso portato a 65 Vabbè, sì, d'accordo. Anni. Perfetto, e questi, ripeto... Sto fotografando. Dunque questi qua hanno tutto il diritto di prendere vitalizio. No, aspetta, domandatevi, perché non gli viene tolto? Perché? Perché ho ragione io. Perché anche se successivamente condannati addirittura a pene definitive come Berlusconi, Dell'Utri, eccetera, rimane questo diritto acquisito che la legge non consente di E dunque tu sei favorevole a mantenere questo diritto acquisito? È una cosa bella, ho già detto di no. Vabbè, non è bello. Secondo me gli andrebbe tolto. Però allora andrebbe tolto. Tu invece no, tu invece non ti vuoi ridurre il 10%. No, ma ho capito. Andrebbe tolto, però invece tu non ti vuoi ridurre il 10%. Tu a questi andrebbe tolto, però il 10% no. Pazzesco, dai. Come tutto sommato anche se da avversari siamo relativamente no ho capito che non te lo vuoi ridurre evitare di querelarti ma ho capito che volete metterlo ho capito che lo vuoi mettere dentro un fondo questo l'abbiamo detto ho già chiarito in quella stessa trasmissione ma com'è questa trasmissione ti piace o no alla fine l'arena oppure un cesso è secondario no ti piace oppure è secondario non è secondario ho già chiarito che noi i 200 euro dove? L'abbiamo proposto noi prima ma, non, della legge ma non è una liberalità non è che potete decidere voi così o ve le tolgono o ve le tolgono pazienza, l'abbiamo proposto noi ma non è una ma voi chi? La ribadisco la questione non sono i 200 euro la questione ma i diritti, sono acquisiti, i diritti acquisiti come confermato dalla Corte di Giustizia Vabbè, europea poi vedremo come andrà a finire ignoranti queste cose non sei un privilegiato ammettilo invece non lo vuoi ammettere vabbè ciao a presto ciao Mario ciao e comportatevi bene ciao vi ho beccato siete di una ignoranza sesquipedale certo perché ne ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori vedi Luciani, vede, ascolti, lei non si rende conto, ma è diventato insieme a Gilletti, lei sul piano radiofonico, lui su quello televisivo, l'emblema del giornalista oclocratico. Silenzio, senza interruzioni. Oh, aveva fatto pure il 68 questo qua, capito? La libertà. Silenzio, senza interruzioni, silenzio. Su. Meraviglioso. Silenzio, senza interruzioni. Non prendere un antidepressivo, fatti un amante. Voglio dare questa indicazione a tutti. Francese, una pubblicità francese strepitosa. Il tradimento meglio di un antidepressivo. Non prendere le pillole, non prendere questi farmaci che fanno malissimo. Fatti un amante. Eppure le associazioni cattoliche francesi se le prendono con questo sito di incontri francesi. Amici miei. Hanno fatto togliere la pubblicità da alcuni luoghi pubblici. Ti rendi conto o no? Ti rendi conto o no? Ti rendi conto o no? A che punto si arriva? Adinolfi è sbarcato in Francia. A che punto si arriva? Io sto ancora ripensando alla vicenda delle nutrie. Perché non ti prendi una nutria a casa tua, Parenzo? No, non nessuna intenzione. Perché non adotti una nutria anche perché tu? Perché non ho nessuna adotta intenzione. Adotta una nutria no, anche tu. No, già tanta ti roba prego, io. Adotta non una nutria anche nutria. Tu. No. Abbiamo provato a chiamare Bonsignore, Vito Bonsignore, anzi no, Alfredo Vito. Alfredo Vito, il doppio vitalizio, 4.540 euro, nonostante una condanna per corruzione a seguito di patteggiamento, signor Alfredo Vito. Fra poco vi faremo sentire quando ha sentito qui Radio 24, volevamo chiedere tu. Ti prego. A proposito della vicenda del benzinaio Cassol, la famiglia dei nomadi, avete sentito quello che dicono, no? Della gioielleria, non me ne frega un cazzo, gettate merda ogni giorno su di noi, cioè siamo noi che gettiamo merda ogni giorno sulla famiglia Cassol, la famiglia dei nomadi, ma quale rapina, non c'è stata nessuna rapina, eccetera. Beh, gentilini, se qualcuno entra a casa mia... Io ho sempre sostenuto nei miei comizi e nella mia gestione che se uno entra in casa mia, io lo buco. Questo perché la difesa deve essere la prima cosa, in ogni casa un corpo di guardia. Io sono di quella generazione, quindi nessuna pietà per i delinquenti. Se offendono è giusto che il cittadino si difenda. No, ma è interessante l'espressione usata, se qualcuno entra a casa mia io lo buco, lo buco, cioè gli faccio un foro in testa con la pallottola. Vabbè, sempre il solito Librandi, sciolta civica, imprenditore, eccetera, che Stacchio ha rischiato di uccidere più persone. C'è Stacchio, il benzinaio, che ha sparato al Rom 41enne che si chiama Cassol. Per chiarire tutto, i nomi, i cognomi, ogni volta uno si confonde. Insomma, Librandi, deputato di scelta civica, di sciolta civica, col sedere ben piantato sulla poltrona. Signor Librandi, che per carità conosco, persona anche per bene, però molto dice bene. Una cazzata pazzesca, ha rischiato di uccidere più persone. Ma che vuol dire? Poi in tutto c'è un rischio, no? Quando uno prende una decisione... No, nel senso che magari dici in contesti come quello, se non hai il controllo dell'arma puoi far peggio. Ho capito, peggio, ma ragazzi, forse. Ma altrimenti... No, ma con questo ragionamento non si fa un cazzo. No, cioè, va bene. Con questo ragionamento non si fa nulla, non si rischia mai. No, ma che questa idea che le armi siano la portata di tutti... Ma ho capito, ma in America mica sono pazzi. Cioè... Beh, infatti hai fatto l'esempio sbagliato. In America succede esattamente questo bene. Alle volte. Ho capito. Chi vuol difendere in realtà offende. Vabbè, sentiamo Librandi, dai. Abbiamo rischiato di ammazzare altra gente con la reazione di Graziano Stacchio. No, ma guarda che quindi... sono gli altri a sparare. Le scorte dei politici, mandatele qua. Abbiamo rischiato di uccidere più gente. Ma chi è che urla uno... le scorte dei politici, mandatele qua? Ma cos'è sta roba? Urlare. Ma che ne so. Ah, in questa discussione è intervenuto anche Razzi, Parenzo, anche mancava. Razzi è intervenuto. Questo non credo. Dice: in Svizzera hanno tutti un'arma in casa. Svizzera, sì, in Svizzera, a parte che non mi risulta, però comunque. In Svizzera hanno tutti un'arma in casa. Però se lo dice lui, capitale di Svizzera, sarà vero, no? Ma in Svizzera il fucile sotto al letto ce l'hanno quasi tutti. Ce l'hanno quasi tutti, perché chi va a fare il militare automaticamente può riportare l'arma a casa. E sono tutti armati. Però non è per sparare. Il risultato è che si sta meglio. È che si sta meglio. La ricetta di Razzi è questa: bisognerebbe mettere fuori dalle ville un cartello con scritto dalle ville, dalle case, eccetera, un cartello scritto attenti io sono armato, come attenti al cane. Non so se la cosa però possa dare vantaggi. Non è un grande terreno. Però vabbè, è una proposta, diciamo, no? Via. Io credo che bisogna fare come i cartelli in casa, vicino alle ville o vicino, cioè? Attenti al cane. Magari scrive attenti, io sono armato. Attenti che sparo? No, oppure attenti che spara. In modo che così il ladro sa che lì sono armati e fa attenzione. Però riflettiamoci, riflettiamoci. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. All'Eurogruppo primo sì agli aiuti alla Grecia, ma servono più impegni e riforme. Draghi, restano lacune. Ok della Merkel, vola la borsa di Atene. Renzi a Parigi, sulla crescita già si vede l'arcobaleno. La Libia è una priorità, ma l'intervento ONU non è all'ordine del giorno. I decreti risposta all'ostruzionismo. Mattarella arriva in tram alla scuola di magistratura di Scandicci. Dal paese forte richiesta di legalità, i PM non siano burocrati né protagonisti. Nella Lega scontro frontale sul caso Veneto. Chi non appoggia Zaia è fuori, dice Salvini. E Tosi risponde, se mi espellono se ne assumeranno la responsabilità. In Siria le milizie dell'ISIS perdono terreno ma distruggono chiese e villaggi. Rapiti almeno 90 cristiani caldei e nello Yemen sequestrata una cittadina francese. Relazione annuale della Procura Nazionale Antimafia. Roberti, al nord l'Andrangheta è più forte di Cosa Nostra. Bologna tra le nuove terre in mano alle cosche. E 30 canzoni tutte inedite per il ritorno rock di Jovanotti, un album doppio che il cantautore definisce uno streaming di emozioni. Da giugno il tour. Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68, quando ero amico di Capanna. Avevo dato 4 esami con la media del 18. Il mio paese era lontano in un pezzetto di provincia e non me lo ricordo mica. La nostra meta era Milano, spinti da una fame antica, di notti luci e un po' di fica. Era l'autunno del 68, quasi 20 anni a cazzo dritto. Dedicato a Capanna. Avete rovinato una generazione, avete rovinato tutti, no, con gli esami, col 18 politico, vergognati, avete rovinato le pensioni, tutto, voi avete rovinato tutto, siete la rovina, la rovina, loro, quelli che hanno fatto il 68, hanno rovinato tutto, ma i miei hanno fatto il 68, ma guarda che anche dice adesso, guarda, non è vero, guarda non come è vero. Si è ridotto, senti come si è ridotto, senti. No, si è ridotto, senti, zitto, 1:24 abbiamo concordato, appunto, senti, abbiamo concordato 1:24, allora io trovo che non sia assolutamente giusto che i trentenni oggi hanno una prospettiva di povertà, perché andranno con il contributivo e prenderanno a 70 anni 500 gli euro. Gli sta bene e dopo spiego perché. No, guardi, mi gli sta bene. Finire, ma come gli sta bene? Dopo spiego perché. Sì, sì, perché gli sta bene. Gli sta bene. Gli sta bene. Perché gli sta bene? Dopo spiego, lo spiego subito. No, spiegalo subito, poi riprendi. Perché io non sopporto un giovane di 20, 22 o 18 anni che non lotti. Che cacchio stanno facendo i giovani oggi? Quando ero amico di Capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. E ti sei rovinato la vita, ti sei rovinato la vita in questo modo. Massimo da Milano, vergognati, vergogna. Non abbiamo massacrato abbastanza sulla storia dei giovani, che poi è sfuggito il tempo, abbiamo parlato di altre cose. No, ma cose. Su quello secondo me ha ragione invece. Ma a fronte di altre che cose che ha detto Clocrazia e quant'altro. Ma mica si possono abbiamo concordato un minuto sono 24. Abbiamo concordato insieme 1:24. Si per sono la prego, caro Clocrate Cruciani, reazionario di merda. La prego di farmi parlare con grande serenità. Lo sai che la nutria si mangia anche in umido? No, c'è un ma chi è un l'autore di sta canzone geniale? Gli Squallor sono, gli Squallor. Ah, è vero. No, ma tu lo sai che la nutria si mangia anche in umido? La nutria si mangia anche in umido. Stupenda, la nutria in umido, amici miei. Questo non credo. No, ma questo credo, io a Mantova, come no? Credo. Io non la mangerei mai, però. Massimo, a Mantova. Sì, ma ti credo che Mauro da Mantova è un deficiente, come mangia solo nutrie. Per favore, spiegato tutto. Ma era così semplice, uno che si nutre di topi. Per forza parla così, si nutre di topi. Hai spiegato tutto, bravo, non lo sapevo. Quanti Mantova bulloni in testa mi beccai? Dai, su, ancora quei bulloni, come con le manifestazioni. Il titolo della canzone, il titolo. Il titolo non me lo ricordo, credo. Devo scaricarla subito. Nel 68 mi ha rovinato il 68, appunto. Massimo da Milano. Mi saluto che voglio andare a scaricare questa canzone. Ma non ci rompere i coglioni, aspetta. No, Massimo, no, no, dai, no, adesso Massimo farlo subito. Stupenda questa. Dimmi. Sì, ma voi fate le nutrie bollite, ma Capanna non c'è bisogno di bollirlo, è già bollito. Ma quel ragazzo lì non è meglio che lo prendiamo e lo rimandiamo al suo paese in Umbria, che sta così bene, una regione così bella, che è diventata come lui, una regione rincoglionita, una regione mantenuta. Questo non è vero. Ma tutto quello che ha fatto con il suo compagno di armi, tra virgolette. In che senso compagno di armi? Non ho capito. Eravamo nell'MS insieme, lui, il toscano. Nel movimento studentesco, pensa. Sì, sì. Abbiamo lei si è pentito di aver fatto quelle cose lì, manifestazioni? Ma pentirsi non è... Si facevano quelle cose, si facevano ogni età le sue cose, ogni tempo alla sua vabbè età. Allora, a parte però questo, qua ancora non ha capito che deve andare a casa, insomma la deve smettere. Ah, no, non vuole nemmeno ridursi del 10% vitalizio. Ma adesso non è che i problemi dell'Italia sono stati 68, è il simbolo di quello che prima combatteva, cioè i privilegi, i privilegi dici tu. Sì, praticamente. Ma, non vabbè, ma sei stato chiarissimo. Guarda, fermi tutti, cose, fermi che adesso torniamo. Adesso, piccole cose borghesi, cioè non vuole rinunciare al 10%. Poi lui dice adesso che in realtà lo vogliono mettere in un fondo. Chi se ne fotte, rinuncia al 10%. Silenzio, senza interruzioni. È iniziata, popolo della radio, popolo della zanzara, caro Parenzo. È iniziata la nuova trasmissione di Marione Adinolfi su Radio Maria. Ah, sì. Io non mi ricordo manco il titolo, devo dirti la verità. Il vento, sì, perché è una perifrasi per dire che perifrasi, la Bibbia usa mangia, dai. Per indicare il nome di Dio. Molto bello. Il mormorio. Ma molto bello cosa? Ah, bello, suggestivo, bravo Adinolfi. Allora, Marione Adinolfi, l'ideologia gender, cioè l'ideologia dei trans, è come la gioventù hitleriana. Beh, questo è un po' fortino. Senti. Un po' fortino questo. Papa Francesco ha parlato e evocato nel parallelo con l'ideologia gender la gioventù hitleriana e siamo pienamente nel suo solco, nel suo insegnamento. Poi ha cambiato anche la voce, siamo pienamente nel suo solco. Sì, beh, Radio Maria, nel non suo è insegnamento. Cioè, si è adattato a Radio Maria. Non è che si è adattato, è che lì non puoi sguaiare. Il disegno di Nostro Signore è l'incontro d'amore tra uomo e donna. Ma questo può anche essere. Papa Adinolfi, senti. Miliardi di persone che da sempre si sono incontrate, un uomo, una donna, un incontro in qualche modo d'amore, e quello ha generato vita, null'altro, da sempre. E allora questo non è accaduto per caso, questo è accaduto perché questo è il disegno di Nostro Signore e noi a questo disegno, umili, dobbiamo solo piegare il ginocchio e pregare, perché davanti a tutto questo si manifesta il miracolo della vita, dell'esistenza che si fa. Sì, però adesso uno può anche andare a Radio Maria, però non è che necessariamente ti devi trasformare, no, devi trasformare in uno che parla dice la messa la domenica, più, dai, su. Parla con voce, ma non puoi anche andare a Radio Maria, ma non puoi trasformarti in un prete che dice la messa. Non puoi neanche... Sei un giocatore di poker. Era un peccatore, dai, ora su. Non più. Lo era un peccatore. Sei, alla fine sei un giocatore tu di poker. Rimani sempre un peccatore. Tifosissimo della Juventus fino anche alla sguaiatezza, no, fino anche alla, come dire, al dileggio su Twitter, non le ti puoi cambiano. Ma non ti puoi trasformare improvvisamente in un prete che dall'alto dell'altare distribuisce, no? Ma non può parlare come dai, parliamo noi su. Qui, è Radio Maria. Non ma è... senti pure questa cosa. Sentiamo. Senti. Aborto post nascita. E l'aborto post nascita è la nuova frontiera dell'aborto, cioè l'uccisione dei bambini malati. Questo è quello che c'è in testa a chi riesce a costruire, sta costruendo la trasformazione delle persone in cose. Poi interviene una simpatica ascoltatrice. Che differenza c'è, dice, tra Hitler e la legge sull'adozione per i gay? E mentre che le parlava, mi è venuto in mente, no? Hitler, che cosa c'è di diverso di quello che faceva Hitler in questo che, con questa nuova legge? Con Comunque la trasmissione si chiama Il mormorio di un vento leggero, che non, sarebbe un che non è la scoreggia di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. È una perifrasi, no? Per indicare il nome di Dio, come è scritto nelle sacre scritture. Vabbè, Andrea Provincia di Cremona. Andrea stupendo. Andrea Provincia di Cremona. Perché non vai a Radio Israel pure tu, Radio Rabbin? Non esiste. Andrea Provincia di Cremona. Non esiste Radio. Radio Sinagoga. Andrea Provincia di Cremona. Ma non esiste, purtroppo. Pronto? Esistesse magari. Pronto, buonasera Cucciani, sarò molto breve. 1976 avevo 16-17 anni, riunione presso la regione Lombardia con il signor Capanna. Sì. Allora ai tempi penso fosse già consigliere regionale o qualcosa del genere. Allora? Sta di fatto riunione per fare un blocco degli autobus il giorno dopo, periodo di autoriduzione, comitato pendolari, organizza tutto, lui capopopolo ci dà tutte le disposizioni. Il mattino dopo, loro nel frattempo, lui nella notte, ha avuto un accordo con quelli degli autobus, delle compagnie. Sì, vabbè, allora andiamo al sodo, vai. Sta di fatto che la mattina dopo ci siamo trovati da soli, mi sono fatto una giornata presso la caserma dei carabinieri di Via Fiamma a Milano, riempito di mazzate. Cosa vuol dire sta roba? Ma che c'entra? Non lo so, ma tutto il discorso vabbè, è un attacco a Capanna. Aspetta. Non è un attacco a Capanna, è un attacco alla classe politica a cui io ho delegato il mio futuro e quello dei miei figli. Questo signore non ha mai lavorato. Questo è bene. Quando io sento Parenzo che parla di Andreotti, che parla di Fanfani, che parla di Amato come se fossero dei grandi statisti, questi signori, se avrebbero lavorato mai alla detto Ferrera, detto si avrebbero mandati a calci nel culo immediatamente. Mai via, detto che è un grande statista. Hanno prodotto solo ed unicamente deficit. Si sono mangiati tutto quello. Bravo. Mio e quello dei miei figli. Quindi è gente che non ha il minimo contatto con la realtà. Questo signore, che era di Democrazia Proletaria, io mi aspettavo avesse una sensibilità sociale. No, non maggiore. Si vuole ridurre nemmeno del 10% il suo vitalizio. Perché fa parte, purtroppo. Dice che ci sono i diritti acquisiti. Vabbè. Fanno parte di quel sistema che si autodifende. Dunque. Quando si parla di. No, ma ho capito perfettamente, grazie. Simone da Lecco, ho capito. Simone Lecco, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi, Simone. Ma guarda, ma tu e il tuo compare siete veramente due maghi nel distruggere i sogni della gente. Mario Capanna, che era il mio eroe, era veramente il mio eroe. Sì, quando nel 1980. Il problema è tuo che c'hai un eroe. Ma guarda, ma c'hai ragione. Ma infatti non ce l'ho più, dopo che l'ho sentito parlare così. Se Capanna adesso avesse 20 anni e uno parlasse come lui, gli tirerebbe le molotov e non sarebbero ancora abbastanza. Sto bastardo, non si vuole ridurre per una cosa sociale di 200 euro. Dice che si batte per gli altri perché sono diritti acquisiti. Dice. Ma quali caso? E noi i nostri diritti acquisiti che li abbiamo persi, noi che cos'è? Siamo cittadini di serie B. Lui è veramente tutto lo schifo della politica, si vabbè, concentra in quella persona lì. Che Capanna sia lo schifo della politica mi pare esagerato proprio. No, non direi proprio, cioè veramente. Il tutto per 200 già... euro per giunta, dai. Cioè, ma uno è incazzato per il principio, perché uno non si vuole ridurre del 10%, sì, punto, dai. Il problema poi non è con Capanna, i giovani, su, ci fa ridere. Ma no, c'è Capanna, la figlia con i giovani. Ma no, su quello ha ragione. Ma i giovani di che? Ma se sono stati ognuno loro a ognuno si deve conquistare il proprio futuro, ha ragione su questo. Ma non hai capito nulla. Si deve conquistare il futuro, cioè, Capanna dice ribellatevi, che... i diritti vanno conquistati. Ma quali diritti? Ma non hai capito una mazza di quello che no, ha detto lui. No, ho capito e come. Allora, intanto mettiamoci d'accordo. Abbiamo un minuto e 44 secondi. Vabbè, per Simone, fammi parlare con Filiberto da Roma, che non è il principe Filiberto. Vai, Filiberto. Pronto? Cruciani, dimmi, vai. Penso, guardi, allora, lottare per i diritti, io sono uno di quei. Ma poi lottare per i diritti cui... non significa un cazzo. Come ognuno si fa deve a utilizzare questa espressione? Quali diritti? Non è che tutti i diritti vanno bene, tutto il va diritto bene. Al lavoro, ma il diritto alla dire? Casa. Ma parli di cose vuote, ma di formule vuote, verissimo. Formule vuote, no, vuote, lui vuote, dice, vuote. Rivolgendosi a questi giovani, dice, anziché stare lì in poltrona a casa con papà e mamma, fate, scendete in piazza, manifestate, fatevi sentire, no, questo vai, dice Capannone, il diritto alla casa, il diritto alla casa. Beh, certo che dormi sotto un ponte, mica un diritto che devo sentire ancora. E uno deve dormire sotto un ponte, quelle concrete è il fatto che io passo la mia vita a studiare, mentre questo signore invece dice che io dovrei lottare. Sì, esatto, beh, ma lottare di che? Devi studiare, non lottare. Il sistema l'hanno creato loro, quello che toglie la pensione ai giovani. All'università ci sono i baroni che non vengono a fare lezioni. Incazzatevi, occupate le aule, fate casino. Ma che occupare le aule? Che è peggio. Quale occupare le aule? Che è peggio. Ci sono delle ingiustizie. Se all'università non insegnano, occupate le aule, fate casino. Ma che occupare le aule? Impazzito. No, occupare le aule ancora. Occupare le aule. Certo. Non significa niente. Io a Pescara sono stato per 2 anni rappresentante d'istituto. È il mio vanto. È quello che in quei 2 anni non c'è stata neppure un'occupazione. Bravo, vabbè, si vede che funzionava. Si studiava, non è che non si fa un cazzo come hai fatto tu all'università, che manco l'hai finita. Ma chi ce l'ho vinta? Mica perché facevo le occupazioni, ma perché ho cominciato subito a fare dell'altro. Non studiare significa appunto fare le occupazioni. Io invece lotto per i miei diritti, che sono quelli di poter studiare e fare. Ma questo va benissimo, è giusto. Senti, la parola lottare per i diritti non significa nulla. Ma non è vero. Non significa niente. Ragazzi, universitari. Mettetemi un po' di musica. Avete rotto di coglione tutte e due. Ciao, Filiberto. Ciao. Allora, come sapete, c'è una guerra in corso in Veneto per la presidenza della regione, con Tosi contro tutti praticamente, perché non accetta che alcune decisioni vengano prese a Milano. In tutto questo si è messo in mezzo Bossi, che ha provato a chiamare Flavio Tosi. Sì, ha provato a chiamare Flavio Tosi per dire, ma Flavio, ma in che senso ha provato a chiamare? Senti, abbiamo ricevuto delle telefonate, senti. Sì, pronto? Pronto? Pronto? Sì, sono Umberto Bossi. Flavio, ciao. Mi dica. Flavio Tosi, ciao, sono Umberto, non ti ricordi? No, ho sbagliato il numero, cioè. Sei Flavio Tosi? No. Sindaco di Verona. Sono Umberto. Ha sbagliato il numero? Non è sbagliato, è la Lega che governiamo Verona ormai. Cosa facciamo con Zaia? Abbiamo fatto. Con mio tempo da perdere. Ma come avevo tempo? Sono Umberto. Umberto Bossi, Flavio. Sì, pronto? Sì, buonasera, è la segreteria di Umberto Bossi, glielo passo, un attimo solo. Pronto? Sì. Flavio. Pronto. Flavio. Sono Umberto, ciao Flavio, come stai? Ma senta, non mi prendi per in giro? Ma sono Umberto Bossi, Flavio Tosi, sindaco. Deve chiamare il comune di Verona per se vuole parlare. Io ho trovato la segreteria, l'elenco, gli ho detto chiamami Flavio che dobbiamo parlare di cazzo di Zaia. E mi tratti così, 20 anni di politica abbiamo fatto io e te. Senta, insieme. Non so chi cazzo. Come non so? Il cazzo abbiamo, lei, ma no, senso, abbiamo no. Fatto il poco il Monviso insieme, Mitra. Ma come va a culo? Beh, caro Parenzo, abbiamo qui uno dei protagonisti di questi giorni. Devo Bene. Dire che la Lega ce la sta mettendo tutta nel tentativo di perdere il Dove Veneto, Beh sì, ce la stanno mettendo tutta, divisioni, lottano, scontri. Lottano, combattono come leoni, giustamente, difendono posizioni, cose. Sì, giusto, d'accordo, però non vorrei che, per quello che riguarda loro, a me non me ne frega niente, eccetera, questi punti di vantaggio che ci sono, sembra, nei sondaggi, poi si perdessero con più candidature. Vedremo come sarà. Uno dei protagonisti di queste giornate è il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Molto buonasera. Bene. E buonasera a voi. Eccoci qua. Lei lo padania sa, che, libera, lei lo sa che la Moretti si sta leccando i baffi se li avesse, no? Ma o no? Ma io credo che debba pensare alla sua campagna elettorale, che ne ha da recuperare prima di provare a pensare a vincere. Quindi. Lo so, però un po' sta godendo, diciamo la verità. Si sta fregando le mani per queste vostre divisioni. È vero che manca un po' di tempo, però. ne manca molto di tempo. Molto, molto tempo. Però scusi, paradossalmente adesso si è tornati ad una situazione di accentramento, cioè tutto, lei ha detto, viene deciso a Milano, ma forse si stava meglio con Bossi, cioè Bossi era più, un po' più aperto e democratico rispetto a Salvini. Grazie. Ma guarda, io guardo il passato anche il presente. Nel passato, quando c'era da decidere sulle elezioni regionali, le liste le ha sempre fatto la Lega Veneta per il Veneto, la Lega Lombarda per la Lombardia, e il federale al limite, ma proprio per, entravo su qualche dettaglio irrilevante. Lo statuto dice che decidono le segreterie regionali, e quindi mi aspetto che venga rispettata l'autonomia statutaria. Ma però al di là di queste cose, il concetto fondamentale, mi sembra di capire, è che quando c'era Bossi, con cui lei aveva dei contrasti, le dava c'era del fascista, libertà, c'era un po' più libertà a livello questo locale, o no? No, ma non è di libertà, è di rispetto delle singole autonomie. C'era più rispetto delle singole autonomie. Nel momento in cui si sente dire che le decisioni devono essere prese a Milano, quando si ribadisce lo statuto dice un'altra cosa, viene risposto che si modifica lo statuto. Allora, un'altra questione è quella che molti dicono che lei è invidioso del successo di Salvini. Lei non è invidioso di Salvini? Io guardo quello che è successo nella storia, non solo recente ma negli anni, della Lega, dei tanti accordi che sono stati fatti, che sono stati poi disattesi. Se fossi un invidioso o fossi una rivista, avrei fatto casino nel momento in cui venivano disattesi gli accordi in maniera sistematica, ma ho sempre anteposto gli interessi del movimento. Cioè non è, però, lei non è invidioso del successo mediatico di Salvini, magari pure della fine? Sono una persona serena e coerente, l'invidia non mi appartiene. Senta, ma però in Veneto, Parenzo, sono tutti contro Tosi, io leggo delle dichiarazioni, anche Gentilini, Zaia dice che Tosi in campo è un'ipotesi abominevole, Salvini è molto incazzato adesso con lei. Oggi ha detto fuori dalla Lega chi contesta Zaia, quindi Non ce n'è uno, a meno delle persone più in vista, che è dalla parte sua, perché se lei ha messo in discussione quella che era una leadership naturale in Veneto, cioè una candidatura più che una leadership. No, in realtà non è così. Un po' sì. Non è mai stata messa in discussione la candidatura. Lei ha minacciato di candidarsi un po'. E tutte le cose stavano andando lisce e tranquille, ognuno per le sue prerogative. Fino a quando? C'è stata un'ingerenza lombarda che ha compassato le cose, perché è andata a dire praticamente la Lega Veneta non serve a nulla, perché tanto le decisioni vengono prese a Milano. Si prendono tutti a Milano, cosa che però non è valsa per la Lombardia, non è valsa per l'Emilia Romagna, non è valsa mai in generale, perché fino adesso le autonomie delle regioni sono state rispettate. Scusi un attimo, però la questione dell'alleanza con Alfano è una delle questioni, no? Lei si allerebbe tranquillamente con Alfano, cioè la Lega Veneta che lei guida. Allora, la posizione espressa dalla Lega Veneta è stata quella di dire: lista Lega più liste civiche, se poi esponenti del centrodestra a livello regionale, che magari fanno parte di partiti romani, se vogliono entrare nelle civiche, nessun problema. Anche perché la distinzione la distinzione fra NCD e Forza Italia non è che per i militanti dire NCD mai. Sì, con Forza Italia. Quando l'NCD sostiene apertamente il governo Renzi, e Forza Italia ha sostenuto attraverso il patto del Nazareno il governo Renzi, comunque, cioè la stessa cosa, dice per i nostri elettori non è che ci sia una gran differenza. Comunque alleanza piena con l'NCD mai. La Lega Veneta decide se e quali alleanze. Ma lei alla fine a Roma ci va alla manifestazione o no? Guardi, io avrei avuto, come ho, l'inaugurazione di un'importante fiera a Verona e una serie di altri impegni istituzionali. Siccome c'è chi fa polemica un po' misera, francamente, non parlo di Salvini, parlo di alcuni che hanno ruoli importanti nelle istituzioni, che percepiscono delle lautissime prebende. A chi si riferisce? Sul territorio non li vedi mai. A chi si riferisce? Facciamo nomi e cognomi, però. Sul territorio non li vedi, i militanti lo sanno. Che sul territorio non li vedi mai, deputati, capigruppo, cose del genere. In certi ruoli, perché qualcuno gli ha dato una mano a raccogliere il consenso, e adesso si mettono a fare polemica strumentale. Allora farò i salti mortali, anche se mi toccherà a rinunciare ad impegni istituzionali importanti, andrò a Roma per non prestare il fianco a delle polemiche penose da parte, ripeto, non del militante. Ho capito. Che fa il volantinaggio, si ma di chi? Piena, di chi sono queste polemiche? Faccia un nome almeno. Da parte di gente che sul territorio non c'è mai, si fa vedere solo quando fa comodo. Un'ultima cosa, queste manifestazioni alla fine sono utili o no? Perché io ho il sospetto che lei non le ritenga utili, cioè ho il sospetto che lei... Allora non è questione che sia manifestare contro Renzi è sempre cose buone e giuste. Dopo che la Lega, quando io sono entrato in Lega, parlo di 25 anni fa, sì. E lo è sempre stata, cioè ha sempre mantenuto la fisionomia con Umberto Bossi e anche con Roberto Maroni, è sempre stato un movimento largamente trasversale che rappresentava operai, impiegati, professionisti, non era fascista, medici, largamente la società in tutti gli aspetti. Adesso sta diventando, perché lo sta diventando, un movimento di destra netta, che secondo estrema me la porta, boss, la porta a non rappresentare una parte, che non vuol dire che la destra non ci deve di moderati essere, trasversale. Io la destra in maggioranza a Verona da sempre. Va bene, grazie, arrivederci, grazie. Ciao. Di nuovo, buon lavoro. Intanto ha dato una notizia Tosi, non ce ne frega niente in realtà, sì. Comunque andrà a Roma questa manifestazione della Lega, eccetera. Senti, volevo dirti questo prima di riprendere dimmi, ma è simile con la voce di Capanna, no? È un po' prima ho un minuto e 40 secondi. Se ti hanno definito, adesso ti dico chi, remissivo, conciliante e dolce. Ma con chi? Con chi? Guarda, venga qui un attimo, signora, chiedo scusa. Ma chiedo con scusa, chi? Dai, con venga chi? Qua, signora, scusi. Remissivo, conciliante. Ma quando ieri ho chiamato la signora Spinoza, ma è normale, ma alcune persone, Spinoza, prima di bastonarle. Hai dato chi? Dell'olgettina alla persona che è qui al mio fianco. No. Vergognati. No, ma che c'entra, dai? Senti il sorriso, senti come ride. Sì, ma non è un porto di mare questo qua, non è un bordello, non è che entra chiunque. Come non è un bordello? Chi è? Chi ti sei portato accanto? Senti una qua. Che hai trovato là sotto, la stazione Termini, una mignotta della stazione Termini, chi ti sei portato? Ma no, ma io non so chi è. Per ma cui come chi ti permetti? Hai raccattato una, che sarebbe cosa buona e giusta, ogni tanto dovresti raccattare una prostituta e portarla. Ma lui non ha bisogno di raccattare, smettila. Ciao Giuseppe, come stai? Ma chi è? Chi è? Chi è dalla voce? Chi è? La Nancy Dell'Olio un'altra volta? Chi è? Ecco, Nancy Dell'Olio! Chi è? La Parietti? Nancy Dell'Olio? No, chi è? Ancora questa cosa con la Parietti? Sono Nancy. Nancy Dell'Olio, stai? Di nuovo là Nancy Dell'Olio, una cosa pazzesca. Ovunque! Non ce ma la che faccio fai? Resistere. Sempre a Radio 24, cazzo! Ci sa, siete amanti, diciamolo, siete amanti, fermi tutti. Pubblicità. Ma saputo che ero a Roma, non potevo non rifiutare un suo invito. Nancy, ma hai una voce formidabile, lo sai, signora Dell'Olio. Chiamami Nenzio Lucrezia. No, Lucrezia Borgia, che domani faremo insieme questa cosa, domani. Lo sappiamo. Però... Ah, voi due insieme? No, insieme, ci sarà un sacco di gente al Teatro Parioli. Però voglio dire una cosa, Nenzio Dell'Olio, ex fidanzata di Sven Goran Eriksson. Ancora, ma ce ne sono stati altri di fidanzati. Quanti fidanzati allora? Ha avuto Sven Goran? Quanti tutto, signor Dell'Olio? Ma noi parliamo adesso per radio. Ma più di 20 o più di 60? Diciamo che insomma non mi sono fatta mancare nulla. Ma più di 60 fidanzati? No, non li ho mai contati. Ma lei a lei piacciono più giovani o un po' più anzianotti, diciamo? Dipende dal momento della vita. Basta che funzioni. Giovani devono funzionare. È importante che funzioni. Ma anche la palla del cervello, ma non anche solo con quella roba lì. Ma senza tu cervello non funziona nient'altro. Sei fissato con i flussi di sangue. Beh, senza cervello non funziona. Ma quanti uomini hanno preso la pillolina davanti a lei che gliel'hanno detto poi, il Viagra? No, ma non so se l'hanno presa, ma non è questo un punto. Ma è fondamentale questa cosa. No, beh, importante sono le performance. Poi come ci riescono. Ah, è uguale, che arrivino col Viagra o senza Viagra è uguale. Beh, grande milfone d'Italia, grande milfone. Ma come ti permetti? Ma perché? Che male c'è adesso? Mi vuoi condannare come ha fatto quel giudice? Mi vuoi condannare come ha fatto quel giudice? Ma no, ecco appunto. Ma decisamente non sono maleducato, sei un po' stronzo. Eccolo là. Cioè, tu ti rendi conto della inutilità totale di alcune cose che riguardano l'Europa? Il Consiglio d'Europa, che le persone normali non sanno neppure distinguere, non sanno che cos'è, il Consiglio d'Europa ha bacchettato l'Italia sui Rom, perché c'è questa vulgata europea che noi trattiamo male i Rom. Campi ti saluta Om, signora dell'olio, che se ne sta andando. Per anni luce, allacciamenti, tutto a gratis. Cosa e paghiamo noi dei Campi Rom, signora dell'olio, ad esempio? Venga qui vicino a me, perché poi se ne deve andare. E questi dicono che bisogna garantire più diritti ai Rom. A lei piacciono i Rom, signora dell'olio? Certo che piacciono, non sono fatto di piacere i Rom, però fanno parte di una realtà. Cioè lei andrebbe a letto con un Rom, signora dell'olio? Ma perché tutto si riduce sempre a letto? Perché? Cioè lei andrebbe in un campo Rom a scegliersi un fidanzato? Deve avere una festazione. Prego? Lei sceglierebbe come suo fidanzato un Rom? Ma no, no, non si sceglie in base non a questo. Non si sceglie, no, lei con un Rom non ci andrebbe. Lei con un Rom non andrebbe. Non lo so, dipende che diciamo tipo di Rom. Ma no, ma con un Rom non ci andrebbe, dai, su, diciamo la verità. Con ma, un non Rom... è, ma non è questo, ma non è questo di fare una selezione a priori così. Ma sì, lei la fa la selezione, lei la fa la selezione. No, non è, no perché no, io sono priva di pregiudizi. Mi batto da sempre per ogni tipo di pregiudizio. Ma quindi... i soldi però per lei sono una discriminante, diciamo, abbastanza. Se uno non è... Beh, se uno non è un, ma questo che vuol dire? Lei sta facendo, quasi sta dicendo che un Rom non c'ha i soldi. No, anzi, se c'è una cosa che il Rom ha sono proprio i soldi, amico mio. No, ma adesso un'altra cosa rispetto diciamo a Roma. La discriminante è un fatto culturale di testa e di abitudini, diciamo se... di affinità in ogni senso. Queste sono le se lei, discriminanti. Se la persona che si accompagna con lei non ha, pazzesco, non ha un reddito, sì, non ha un reddito buono, superiore ai 200-300.000 euro, secondo me lei non. Non riusciamo a sentire quello che sta dicendo. Lei ha un profumo pazzesco, particolare. Ma sì, signora dell'olio, dovete chiamarmi Nancy, ma questa signora Nancy. Lui parla dei Rom perché essendo a Milano e non potendo non esistendo ancora la radio olfattiva, signora dell'olio, metta le mani addosso a Parenzo, ma veramente così. siamo attacchettissimi, abbiamo un microfono unico per risparmiare, perché esatto. Siamo squinti, ma tu sei così insensibile, Parenzo, cioè non hai in questo momento nessun fremore, sta dicendo esattamente il contrario, che non è insensibile. Hai qualche movimento sotterraneo, Davide? Abbiamo senti vibrazioni nel suo braccio. No, questo è il braccio perché era fermo qua. Movimenti. Cioè, senti qualche movimento così o là, oppure sei completamente finito, morto? Ma lui è un professionista. Non sono temi che vengono trattati così on air, diciamo. On air. Comunque sia dell'olio, lei se uno non ha un reddito superiore a 200-300.000 manco lo prende in considerazione, nemmeno per una serata così, a meno che non ma sia... Ma questo è vero, ma non c'è niente di male. Rispondere. No, ma no, assolutamente non c'è niente di male. Ma lei vuole uomini ricchi, a lei piacciono uomini ricchi. Non l'ha detto. Ma non l'ha detto così. Ci sono delle associazioni che va a prescindere dal reddito. Vabbè, però diciamo... Vabbè, comunque. No, questa è una tua idea. Ma è remissivo con lei, Cruciani, lei ha detto remissivo. No, è stata una voce dolce questa mattina al telefono. Ma anche remissivo, dolce. No, remissivo, non sono mai. Lei sta distruggendo, sta squagliando un mito per questi radioascoltatori che sono abituati... non l'ha mandata mai a fare in culo, ad esempio. Ma perché avrebbe dovuto? Ha mai mandato il traffico, ad esempio? No, durante la chiacchierata. Salutiamo la signora dell'olio, arrivederci. Buon proseguimento. A domani, cara, arrivederci, cara. Ciao. Bene. Alessandro da Catania, vai. Sì. Dimmi Alessandro, dimmi. Mi sente? Sì. No, perché sono con gli auricolari mentre sto guidando. Vai. No, volevo dire, guardi, che ho sentito l'introduzione della trasmissione con Mario Capanna. E già dalla trasmissione di Giletti con una L, sì. Io mi confermo stasera che nella mia vita, adesso che ho 53 anni, sì. Sono stato uno stronzo. Perché nella mia adolescenza bella marcata, missione. nell'aver creduto a Mario Capanna, ma come sono stato stronzo a credere che questo ci avesse dato un'Italia diversa, uguale, quando lui adesso sta facendo né più né meno quello che nella letteratura il signor Eric Arthur Blair avrebbe identificato in Napoleon, invece sarebbe stato lui se l'avesse conosciuto. Vabbè, non complichiamo le cose. Comunque, Alessandro, lei si sente uno stronzo? Lei si sente uno stronzo? Sì, perché io nella mia adolescenza ho creduto in lui e ora francamente dico, ma come è possibile che ho creduto in questa democrazia proletaria? Lui che adesso fa il pagnottista? Però Alessandro, lei anche a credere nella democrazia proletaria, amico mio. Democrazia su. Partito Democratico, Unità Proletaria. Si dia dello stronzo solo per quello. Me lo prendo tutto. Ma non per Capanna in generale, ma come si poteva credere democrazia proletaria, dai su. Proletaria. Vabbè, comunque. È che ci andava ad ammaliare a noi ragazzi del liceo scientifico neolaureati. manicole di chissà che cosa, per poi smascherarsi e dire no, è un diritto acquisito, è mio e guai chi lo tocca. Uno lavorava per la rivoluzione, per rivoluzionare, adesso ci stanno i diritti acquisiti, dai su, guardi, ma di cosa stiamo parlando? Guarda, è un minuto e 20 secondi concordato. La trasmigrazione in termini pratici di ciò che aveva profetizzato George Orwell nella Fattoria degli Animali, che veramente non si chiamava George Orwell, ma non il battesimo era Eric Arthur Blair. Beh, siamo al top della cultura qui, Alessandro, grazie. Deve dire a questa persona che siamo degli ignoranti, bene, io sono un avvocato e mi permetto di poter parlare molto di più. Peccato che ho il tempo limitato, ma che lui venga adesso a fare il saputello, a sbattere in faccia che lui è preparato e tutti siamo ignoranti. Ma dai, ma per favore. Armando, provincia di Modena, che è qua? Che è Parenzo? Che abbassa quel telefono, dai. Armando, provincia di Modena. Buonasera, vai. Dimmi, Armando. Io ho chiamato nel sentire Capanna, sì, perché farebbe meglio a scomparire dalla circolazione. Sì. Visto la politica che faceva allora, perché ha detto degli ignoranti voi perché non eravate, non conoscete quegli anni. Io in quegli anni c'ero, avevo 20 anni e lavoravo. E so chi era Capanna, che ha usato solo la difesa dei più deboli per avere i voti, poi quando è stato il momento di difenderli li hanno abbandonati. Questo è uno dei loro comportamenti, dico dei loro perché non c'era poi mica solo lui così, ce ne sono tanti altri che sono attualmente ancora in auge. Ha pienamente ragione, il discorso dei giovani sarà molto breve. È la fortuna di Capanna che i giovani non reagiscono, perché l'unica reazione che potrebbero avere i giovani adesso, che gli stanno rubando tutte le loro risorse, ma non solo quelle dei giovani, ma anche quelle del paese, forse se si svegliassero come dice lui, l'unica cosa che potrebbero fare è andare a Roma con i manganelli, come è già successo nel passato. Va bene, Armando, ciao. Si va bene. Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68, quando ero amico di Capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. Pronto? Il mio paese era lontano, in un pezzetto di provincia, e non me lo ricordo mica. Mario? Pronto, chi parla? Sì, cercavo Mario Capanna. Chi parla, prego? Sì, sono Cruciani, salve. Ah, un attimo, per sì, cortesia. Grazie. Era l'autunno del 68, quasi 20 anni a cazzo dritto. Quante illusioni, occupazioni e cortei e lacrimogeni e botte per stare. Casa Capanna. Mario? Un attimo, per favore. Grazie. Grazie, 1 minuto e 40 secondi. La Isoardi ama Salvini, va cacciata dalla Rai. E quanto deciso dal PD? Pazzesco. Ma pazzesca sta cosa. Ma se è vero, Senti, Mario, senti sta canzone, senti Mario. Canzone, Marione, senti, squadra, senti la canzone. In testa mi beccai, perché per chi non so e non lo saprò mai. Mai. Quanti ingegneri ed architetti canta insieme a noi, ha partorito il 68. Ma io già la conosco. Dio, stilisti, uomini d'affari, l'unico stronzo sono io. E non mi pento. Ma questa Cruciani riguarda te. Aspetta. Ma il 68 mi ha rovinato. È una canzone degli Squallor. Hai rovinato un sacco di gente con questo 68. Questo è il significato. Senti, ma io ti voglio fare altre 2 domande. Scusami se ti rompo i coglioni. No, aspetta un secondo. Ma perché non mandi cosa? Quella meravigliosa invece di Rino Gaetano, Ping Pong? Vabbè, manderò pure quella, non ti preoccupare. Mica è radio DJ, di giochi. Siamo in ben altro contesto. Vabbè, poi Rino Gaetano dicono che mi assomiglia moltissimo, ma come fisionomia. No, era molto più bello, Cruciani. Ma che ne sai tu adesso? Scusami, abbi pazienza. Scusami, tu due cose. Primo, non ti vergogni di avere trattato così i giovani in quella trasmissione, scusa, dicendo che devono combattere e che gli sta bene ai giovani di avere quella pensione che hanno adesso? Ma che diavolo stai dicendo? Ma non ti dovresti vergognare di quello che hai detto? Vergognare. Semplicemente evidenziato due dati di fatto. Il primo, siamo di fronte alla metà dei giovani che sono allo sbando, costretti alla disoccupazione. Ma tu... quando va bene a qualche Ma che c'entra? Precario. Ma tu hai detto che non combattono. E ho aggiunto, fanno bene a temere che quando saranno vecchietti con questi chiari di luna avranno una pensione magra. Poiché lo sanno, mi chiedo, e il mio era uno stimolo ovviamente. Ma che stimolo? Ma le offesi, è un'offesa. Ma lottare che vuol dire? Ma avete rovinato il futuro dei giovani. Fammi scrivere il concetto, no? Perché senza lotta di massa si ottengono la lotta risultati. La lotta di massa, ci sono babbei, e non sono solo i giovani, anche i loro babbi e le loro mamme, che sono convinti che i problemi glieli risolva il governo. Questo ha ragione il vecchio Mariano. Una volta è Berlusconi, una volta è Renzi, non cambia una benemata pippa, aumenta il debito pubblico. La rivolta, lui vuole la rivolta la fanno contro di te dopo quello che hai detto. C'è gente che ci ha chiamato dicendo che la rivolta la facciamo andando sotto casa tua a pigliarti. Ma che bischerate dici? Ma come no? Ma ti faccio sentire gli interventi della gente che vuole andare sotto casa tua a prenderti e a farti la pelle. Siamo noi qua a mediare, a dire no, ma la pelle no. Ti vogliono fare fuori. Vedi la turba? Quale turba? Ma ti piacerà mica Landini a te? Ti piacerà turba da voi oclocratici? Sì, vabbè. Ti piacerà mica Landini? Ti piacerà mica Landini? Landini è bravissimo. Dunque sei a favore di Landini che scende in politica? Assolutamente no, mica è scemo. Appunto, però tu sei a favore di... L'ho ribadito, dice io voglio continuare a fare il sindacalista. Fa benissimo, continui. Continui, dunque tu Forland, abbiamo rovinato Landini, Capanna a favore di Landini. Capanna a favore di Landini, rovinato Landini. Ma tu e Parenzo, che cosa aspettate a fare, non dico una lotta, ma almeno una... Ma quale lotta? Ma io faccio la lotta a casa mia, nel mio letto, al massimo faccio la lotta, amico mio. Nel letto la faccio la lotta. Quello è il pancrazio. No, ma che lotta? La lotta contro i privilegi che hai tu! Ma che sei fissato? La lotta è contro i privilegi che hai Giletti. Tu. Tu e Giletti. Io continuo a 70 anni suonati, ma per fortuna portati bene, a fare quello che facevo a 21 o 23. Ma non è vero, con i vitalizi in tasca, dai, su, vergogna. Continuo a combattere per i diritti di tutti. Ma quale di... Per i tuoi diritti, per il meno 10%! Ecco perché il mio ricorso viene visto male. Ma dai, viene su. Visto male dagli occhi. Ma perché non torni in politica con Landini? Perché non torni in politica con Landini? Ah. No, io ho già dato. Hai già dato, eh. Però perché Landini, adesso mi occupo di OGM, di biotecnologie. Beh, vabbè, però Landini è il futuro. Landini OGM. È un modo avanzato di occuparsi dei... Ma a favore degli OGM, spero. Futuro. A favore degli OGM. Ma no, sarà contro gli OGM. Ma scusate, io ho da fare, perché diavolo mi avete richiamato? No, ti abbiamo richiamato per farti sentire la canzone degli Squallor. Ma ti abbiamo richiamato anche per capire se tu eri a favore di Landini contro Renzi, eccetera, eccetera. Dunque, tanto per capire se Landini è già morto in partenza perché tu gli dai il benestare oppure no, insomma, capito? No, ma Landini è bravo di per sé. Sono uno scimunito. Non riconosce la bravura, la lucidità e il coraggio di Landini. È il futuro dell'Italia, Landini, diciamo la verità. Ma questo non lo so, ma sicuramente è una persona onesta, capace. Vero. Non è un fannullone. Perché non lo aiuti? Ha mai lavorato pure lui un giorno? Vabbè, lasciamo perdere. Ma tu cosa intendi per lavoro? Lavoro. Ma perché voi due e Parenzo state lavorando? Beh, certo, assolutamente sì. Tu e Parenzo sparate minchiate. Sì. No? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare. Molto ben pagati. Grazie. Ma chiami lavoro? Assolutamente sì, me ne vanto anche. Io sparo minchiate. Prova tu a inventare ogni giorno. Io ti dicevo che io ho fatto il parlamentare, il consigliere regionale. Ma mica mi capisco. La differenza è che non mi paga lo Stato. Stato a me. Buoni. Perché allora, buoni? Voi lo sapete che nella seconda metà degli anni 70, al tempo della maggioranza di compromesso storico, un po' vecchia sta cosa, PC compreso del tempo, volevano fare due centrali elettronucleari in Lombardia. Ma questo che c'entra? Purtroppo non l'hanno fatto. Perché non ci sono? sono due centrali elettronucleari in Lombardia. Ma che c'entra questo? Ma che c'entra? Perché pur essendo due consiglieri di Democrazia Popolare. Ah, perché lui ha fatto la battaglia. Purtroppo è un altro dei motivi per cui ci avete tolto il futuro. Hai fatto male. Hai fatto male. Viva il nucleare. Viva il nucleare. Hai fatto male. Allora, due consiglieri regionali di Democrazia Popolare. Ma quello ho capito. Questo non giustifica che è il vitalizio e non vuoi togliere il 10%. Fammi finire, Crociale, ti prego, ma sei fissato, devi farti curare, porta pazienza, dai, no? E io ti voglio bene, ma devi farti curare. Tu hai bisogno di uno psicoterapeuta. Ma tu, testa, no? Per altre cose può darsi di sì, ma tu no, hai... prima che ti aggravi. Ma tu, dal punto di vista sessuale, come sei messo dal punto di vista sessuale? Ecco. Sei libertino oppure sei bigotto sessualmente? Due centrali elettronucleari. Non si deve a quei due consiglieri. Va bene, bravi. Applausi a Capanna, adesso pure gli applausi. Facciamo gli applausi, dai, facciamo gli applausi. Se siete intellettualmente onesti, ma quali applausi? Che l'energia ci costa quattro volte tanto. Poi è venuto in Giappone, avete capito? Il Giappone, va bene. Ciao, presto, ciao Mario. Squallo in chiusura, ciao. Ciao, ciao, ciao. Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68. Quando ero amico di Capanna e avevo dato quattro esami con la media del 18. Cruciani, brutto sciagurato. No! Cioè, allora ti spiego. Padova, Chiara. Allora, io mi sono stufata di essere definita una bamboccione prima anni fa da Padova Schioppa, sì. E adesso da questo Capanna. Io lotto ogni giorno con 1100 euro al mese. Brava, brava. E sul mio stipendio non vedo 400 euro, che sono le trattenute di cui una parte andranno anche nei 5000 euro di questo stronzo di Capanna. E io lotto ogni giorno, pago l'affitto, le bollette, insomma devo fare la spesa perché ogni tanto bisogna mangiare, lo sfizio ogni tanto, insomma, e sentire certi discorsi, insomma, 33 anni, quasi 34, sono precaria, certo. Mi sono comprata la macchina, mia madre 50 firme, perché io dove vado? No, ma lui dice, ma che, insomma, lui dice che si batte per te, si batte ma perché tu... Per me, ma cosa si batte per me questo? Ma cosa fa questo? Per me non fa niente nessuno se non la sottoscritta. Io lavoro perché il lavoro me lo sono trovato da sola, non è che mi ha aiutato Capanna o che ne so io. Io il lavoro però me lo sono trovato. Però Capanna, che da è sola. Contro il precariato, dice ma che se ci fossero leggi diverse sul mercato cosa? Del lavoro. Ma contro il precariato, ma cosa che vuol che dire essere beh, vuol dire ad esempio che il Jobs Act, il Jobs Act farà sì che saranno tutti assunti a tempo indeterminato, ma con la possibilità di essere licenziati. Cosa c'entra? E quindi è una buona riforma. Fai parlare Chiara invece di sparare le cazzate prolenziane. Il Jobs Act è una buona riforma. Tutti i professoroni universitari, tutti i primari, e insomma, su, che dicevano lottiamo, diritto allo studio, diritto a questo, diritto ma a quello. Quale diritto? Ma diritto di cosa? Ma quale diritto? Grazie Chiara. Francesco da Perugia, siamo la patria dei diritti, diritti per tutti, diritto al lavoro. Beh, che diritto poi non ci sono diritti. Che non vuol dire nulla in realtà, non vuol dire niente. Sono diritti Francesco disattesi. Da Perugia, ma che diritti? Ciao, buonasera. Totalmente. Sì. Totalmente. Mi permetto di tornare un po' più indietro quando quel signore faceva le battaglie politiche che dice... Perché a Perugia e sì. In Umbria in genere, chi teneva l'altoparlante e sobillava i giovani aveva il 18 politico quando andava male e aveva la laurea garantita. Una volta laureato hanno trovato tutti i posti nei posti pubblici e noi a farci il culo per trovare un posticino, ha capito? Poi dopo lui ha trovato questa carriera politica e da vecchio dà ancora il meglio di sé, che ancora l'ha non trovato, ha capito. L'hanno eletto. L'hanno votato, bene, però non è che l'ha trovato, cioè anche lì su, ha lavorato pochissimo. Ho capito, dai, ma l'hanno votato, però abbiate rispetto. Parenzo, fammi parlare. A me non me ne frega niente di Capanna, figurati, me ne fotto di Capanna. Tu però non hai mai lavorato, quindi non sai questo che vuol dire. Questo lo dici tu, io lavoro ogni giorno da quando avevo 22 anni. Fammi finire il concetto. Questo deficiente ancora parla che i salvatori della patria non hanno fatto due centrali nucleari. Terni chiude perché l'energia costa troppo. Bravo, capito? Bravo. Vieni a vedere chi ci sposta. porta le mani tutto il giorno. Hai capito? Io marco tutte le mattine alle 7 e sono tornato alle 8. E ho 65 anni, ancora devo lavorare. Mia figlia c'ha 3 figli, non l'aiuta nessuno. Hai capito? Per andare all'asilo non gli, i figli non gli basta lo stipendio. E tu ti ma senti... che cazzo ragiona Capanna? E tu ti senti... E aiuto... parlare di giovani? E tu ti senti aiutato da Capanna che vuole difendere i diritti acquisiti? Guarda che Capanna, quando faceva le manifestazioni a Perugia, c'ero anch'io, ma ero sull'altra barricata. Hai capito? Vabbè, e mi sono fatto il culo solo, non ho trovato il posto regione in provincia. Certo, c'è un sacco di gente che non ha trovato posti pubblici, questo è il punto fondamentale. Quell'amico avvocato garantiti. Che prende 59.000 euro di pensione, faceva il calciatore del Perugia. Sì, me lo ricordo, hai capito? È uscito qualche settimana fa. Vabbè. Hai capito? E ha trovato il posto in comune per mezzi sportivi. E poi dopo quelli che lui gli ha garantito quella pensione e la ruba ai ragazzi. Quello la ruba ai ragazzi. Certo che la ruba ai ragazzi, non c'è dubbio. Invece Capanna vorrebbe pensioni più alte per tutti. Dove, in quale paese, in quale universo può concepire una cosa di questo tipo? Ciao Francesco, ciao, ciao. Le teorie complottistiche di Red Ronnie su Gino Paoli. Mi dispiace molto per lui, nel senso che, cioè, io sono abituato a guardare i film, certi film dove ci sono dei complotti. Quando c'è un avvenimento io mi chiedo sempre perché esce fuori. Io so quello che Gino Paoli sta facendo come presidente della SIAE. E cosa sta facendo? Questa è chiaro che ci sono delle multinazionali che non pagano, sì, i diritti, contro cui lui si sta battendo. Ma io su questa cosa qui voglio sentire il mitologico, vediamo un po' se riusciamo a beccarlo, il mitologico Sposetti, Ugo Sposetti, che è uno di quelli che con le feste dell'unità insomma ha avuto a che fare Sposetti, cioè, sentiamo un po'. Sì. Compagno Parenzo parla. Ugo Sposetti, dove siete stati tutte queste settimane? Ma caro Ugo, dove siamo stati? Siamo sempre... Stai zitto, reazionario, che non sei altro tu. Dove vuoi che siamo stati? Siamo sempre qui sul pezzo. Noi siamo lavoratori, altro che i lavoratori che voi al Parlamento, no, che non fate mai niente. Dai. Ti lascia perdere che io sto già riprendendo un treno da Firenze che ritorno a Roma. Ah, beh, che sai, che sai che fatica. Tre treno da Firenze. Dai, su. Vabbè, senti, caro Ugo, ma dimmi la verità: ti è caduto un mito con questa storia di Gino Paoli? Direi. No, quale mito? Non è stato mai il mio mito. Non hai mai avuto come mito Gino Paoli? No. Ma è, però è stato in Parlamento col Partito Comunista. Sì, appunto. Ogni tanto qualche errore si commette, sai. Qualche errore anche i comunisti qualche errore l'hanno commesso. Sì, sì, sì. Senti, lui ha detto che è stato costretto a prendere i soldi in nero dalle feste dell'unità. Ma che la smetta, si vergogni. Ci vergogni, con gli Svizzera, con i soldi dell'unità. Ma avete fatto il conto per avere tutti quei soldi, quei denari in Svizzera, quante feste doveva fare e quanto doveva far pagare ogni sua esibizione? Non è assolutamente vero, è una mascalzonata. Intanto voi sapete benissimo che gli artisti, i più noti, hanno i loro agenti, no? I contratti si fanno con le agenzie, sì. E quindi si fa un regolare contratto, ti fanno pagare la pennale se lo rinvii, se piove e via discorrendo, perché anche se piove devi pagare, no? Però scusa, come si può escludere che lui magari non l'hai, sono cose che tu non conosci, come si può escludere che lui abbia preso dei soldi in nero alle feste dell'unità? Qualche volta sarà successo. Se avesse preso soldi al nero dalle feste dell'unità si dovrebbe vergognare. Beh, pure voi, però, cioè, comunque, no, pure voi. Intanto sono quelli che li prendono. Intanto cominciamo da chi prende. Una vergogna, questa sua conversazione nello studio incimiciato è una cosa, una vergogna. Ma è una vergogna anche portare i soldi svizzera. C'è uno che è stato nel Partito Comunista, che si professa di sinistra e che porta i soldi svizzera. Per carità, vergogna. Vergogna totale, vergogna totale. Ma vergogna sua o anche un po' anche sua. Si deve vergognare di avere i soldi svizzera? Certo. Vabbè, uno magari li ha portati, lasciamo perdere adesso che questo caso, magari uno li ha portati legalmente i soldi svizzera. I soldi svizzera legalmente. Voi avete mangiato troppo e bevuto meglio, ma questo sono contento per voi, però che i soldi svizzera siano arrivati legalmente, no, solo voi lo potete affermare. No, io non lo Scusa, non lo però credo. Torniamo all'inizio, tu dici è impossibile che abbia preso tutti quei soldi dalla festa dell'unità, magari saranno una parte. o no? Ma lasciate, non l'ha preso la stessa dell'unità, non mi fate imbrogliare. Ma tu hai firmato qualche contratto con lui o no? Mai. Tanto li firmavano quelli che... Lui, guardate, l'ho detto a qualche vostro collega, lui l'ultima esibizione degli ultimi 15 anni è stata nel 2004 a Genova, perché eravamo a Genova e quindi ha fatto uno spettacolo con Ravanoni e mi pare Lauzi, ma e tutto quanto è stato fatto attraverso le agenzie. Vi ripeto, gli artisti, i contratti si fanno con le agenzie. Vabbè, ma puoi escludere che è qualcuno... una porcata che ha detto, dai, una porcata su. Porcata totale. Dopo che hai scoperto, che è stato scoperto che comunque aveva un conto in Svizzera, a meno che. Ma non poi... è che solo lui, avete visto, c'è pure qualche altro ragazzo che parla sempre. Come si fa? Chi è? Poi ce l'hanno tutti, poi ce l'hanno tutti di 5-6 mila euro. Ma te l'immagini che uno parte per andare a Lugano a mettere 5 mila euro? Sai, vabbè, quello parla? È quello qualche è il padre... altro ragazzo. Sai, però quello parla. È il padre, però il padre di Civati, eh? Il sì, padre. Il padre, la madre e il nonno. Vabbè, tu non credi che sia del padre, scusa? No, sì, come no, certo. Però tu dici, no, lui non se ne può chiamare. Troppe cose che in Italia succedono all'insaputa degli interessati. Vabbè, io non me ne faccio una ragione, ma che se qualcuno tira fuori la nostra storia, io le azzanno, no? Ciao Ugo, a presto. Luciani, Parenzo, vi saluto, ciao. Vi saluto, state bene. Ciao. Non lavorare troppo, non lavorare troppo al Senato, ciao. Per carità. Vabbè, il mitologico Ugone Sposetti che è incazzato con Gino Paoli, vergogna. E abbiamo sbagliato a candidarlo all'epoca al Partito Comunista, cose pazzesche. Ormai è tutto degradato ormai. Come non risentire lo scontro ieri sera tra Casarini e la Santanchè? Molto buono. Beh, Casarini-Santanchè. Casarini ex centri sociali, eccetera. Adesso un po' ripulitino, si presenta da Formigli, ma sempre combattivo, però più pulito rispetto a qualche anno fa, più che pulito, vuol dire pulito, più landiniano, meno movimentista, diciamo. La mettiamo in questo modo, dai, forza, Casarini, dai. Questa propaganda assurda. Allora, da Mohammed Atta a tutti quelli che hanno fatto gli attacchi terroristici in Europa, sono cittadini europei quelli. Non allora, sapete che è venuta qui Balconi, che cosa stai dicendo? Voi avete fallito tutto quello che avete fatto. Allora, Fabio. Allora, io l'ISIS lo voglio combattere veramente, non come voi che fate propaganda per i voti, basta. Allora, Fabio. Rimandate le facce, questi ragazzi qua, Francesca Manocchi li ha incontrati. No, fermi. Scusate. Allora, no, tu c'hai la casa grande, c'hai tanti soldi, portali a casa tua. Va bene. Casarini. Cos'è l'umanità? E questa contro. Dopo la pubblicità, i ragazzi incontrati da Francesca Manocchi. Portali a casa tua, diceva Casarini alla Santanchè, perché è una casa grande. Casa grande qui a Milano, è vicino a casa mia, tra l'altro, pochi passi da casa mia, un chilometro, meno di un chilometro, non so se sia di qualche interesse questa cosa. Nessuno. Sergio da Monza. Vai Sergio. Pronto? Dimmi. Ciao a tutti. Volevo chiedervi una cortesia, volevo sapere se potevate gentilmente richiamarmi Capanna, volevo mandarlo a fanculo in diretta. Beh, diciamo che potremmo istituire questa cosa, mandare a fare in culo Capanna, secondo me lui ci sta. Ecco. Secondo me lui ci sta. Io sono un libero professionista di 42 anni, ho una famiglia, ho una responsabilità, tutta la mattina mi alzo la mattina alle 6:30, finisco alle 8. Sì. Sono stufo di sentire uno stronzo che non ha mai fatto un cazzo nella vita. Sono stufo. La tutela, di che cosa stiamo parlando? Ma lo sapete i diritti acquisiti sono pure quelli dei condannati che prendono il vitalizio, sono pure quelli dei vitalizi super, dei vitalizi d'oro, eccetera. Sono tutti diritti acquisiti perché le leggi le hanno fatte loro. Lo sapete che un libero professionista quando la mattina si alza è ammalato e ha un problema, non va al lavoro, non guadagna. Lo sapete a me lo dice. Cosa? A me lo sapete dice. Che ad agosto quando uno fa le ferie vuol dire che non introita, lo sapete. A me lo dice. Che noi abbiamo una pensione, paghiamo in arcassa, A me lo dice. Soldi, ma non lo sta dicendo a te, lo sta dicendo a tutti. No, ma a tutti chi? Lo so perfettamente. Utilizzare il pagamento di questa benedetta in arcassa sono soldi sproporzionati a quello che probabilmente mai non vedremo. Ma lo sapete? Ma lo sapete che non tutti i giorni... Lo sappiamo e come? O lo sapete che tutti i giorni vivo. Colleghi con studi molto più affermati, grossi del mio, che licenziano gente, che chiudono SRL, che chiudono tutti i giorni e ci prestano a fare lavoretti da 1.000 euro pure di pagare le spese. Lo sapete che si fanno i bandi alle pubbliche amministrazioni con sconti medi oramai per prenderli, provare a prenderli, magari prenderli, perché oramai i bandi non ci sono più soldi, non ne fa nessuno. Lo sconto medio di un professionista è il 70%. Vuol dire che se io prendo dunque, e per questo lei vuole prendere il telefono e mandare a fare in culo Capanna? Certo, io vorrei dire a gente come Capanna, almeno ha l'intelligenza, secondo me, dovrebbe averla, sì, di non parlare. Si prende i suoi soldi, se li porti a casa, la finisca di insultare gli italiani essendo intervistati dicendo stronzate dalla mattina alla sera. Ciao Sergio, grazie. Ciao Luigi Roma, vai Luigi. Ecco, buonasera. Dimmi. Lei dà sempre meno spazio a ciò che noi italiani abbiamo visto nel cervello, che sarebbe la topa, no? E quindi, beh, ogni tanto allora, sì, diamo spazio anche a queste cose qui, certamente, non c'è dubbio. No, però lei sta perdendo lo smalto, signor Cosciani. Cioè, nel senso che devo parlare sempre di figa. Il tuo scudiero gli sta sentito che di top non capisce proprio nulla. Cioè, secondo te, Luigi, devo parlare sempre di figa? No, sempre. Beh, in buona parte sì, ma con tutti, cioè, devo parlare spesso di figa, secondo te? Con tutti gli italiani, sì. Come beh, sì, ma come tutti gli altri, hai ragione. Un altro maiale. Dai, un altro abbandonato maiale. Questo filone da qualche giorno. Lo riprenderò presto. Non ti preoccupare. Allora, io dico: puoi avere fiducia, puoi darmi fiducia. Signor Crociani, fa un concorso. Anzi, nel frattempo si è infilata dentro quella signora dall'olio con una voce che non si chiama dall'aceto, si chiama dall'olio proprio. Ti ha fatto arrapare? Ti ha fatto un po' arrapare, Luigi. Anch'io ho le frecce nell'arco con la voce, perché Arsamandi ce l'ho in tasca. E quindi volevo dire, ma è una roba incredibile. Ma perché, che ha detto? Scusa, non ho capito. È un maiale, dai, ma è una roba. Ma perché? Ma ha fatto arrapare più parla di, ma più parla di sesso, vuol dire che non lo fa, dai, è un chiacchierone del sesso, gli piace sentire, origliare. È un maiale, dai, un simpatico maiale. Sei un maiale, ma non capisci niente, sì, tu che sì, sei lì maiale, a sentire, sì, il rumore, la voce della donna, la radio. Certo, e certo. Sei un maiale, dai, ma sei un maiale, su. Sì, statene zitto. Un anziano, allora, porco sei, su, che ti piace sentire la radio per sentire maialate, anziché capire quel che succede. Se ne sta zitto, gli do anche capire quel che succede. Vabbè, allora che vuoi dire, Luigi? Non ho capito. Vuol dire, ma vuol dire niente. Vuol dire un bel concorso, perché noi abbiamo una super Miss Sensualità. E chi sarebbe? Ti ho detto che è Miss Sexy, Miss chi sarebbe? Italia, Miss Universo, Miss Tutto, che sarebbe la signora Boschi. Guardate che voi perdete di vista tutte. Ma a me non piace, per esempio. Allora, che vuoi fare con la Boschi? Non ho capito. Un concorso per fare un'elezione di Miss. Vabbè, ma non c'è bisogno, fa il ministro. Ciao Luigi, ciao. Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. No, invece dovreste interessarvi di questa storia, la storia di Paolo Broferio, se si pronuncia così, evasore per 95 centesimi, bar Romeo, località Carpi, Modena, chiuso domani. Da domani, se non sbaglio, per 3 giorni come sanzione. Broferio, eccoci qui. Eccomi qui. Come andiamo? Ci vediamo domani, Broferio. Bene, ciao. Bene, domani ricevi pure Parenzo per sì, Matrix. Vado da lui domani. Mamma mia, che pubblicità. Ma giustamente perché. Sono da te domani, Broferio. Ciao, ci siamo sentiti oggi pomeriggio. Buonasera. Lo sapevi, ciao, caro, che domani veniva Parenzo da te per Matrix domani? Come no? Sì, lo sapevo. Ci siamo sentiti oggi. Senti una cosa, io voglio capire. Andiamo ma a mangiare quel ristorantino buono lì vicino. Ma lascia poi perdere, adesso lui ha i suoi problemi. Adesso no, devo andare al ristorante con pranzo, te. Lo porto a cena io. Ma non hai bisogno, i soldi ce l'hai. Non è mica stai in miseria. Non posso avere una cena a una persona. Ti porto io nel ristorante. ristorante bello domani. Bravo, bravo. Allora, però andiamo al sodo, a parte le cose che farete domani. Sì. Però io voglio capire una cosa, Proferio, ma io non ci posso ancora credere. Certo. Cioè, lei ha evaso per 95 centesimi, se poi ha evaso per 95 centesimi, e il fisco, le autorità, non so chi, la fanno chiudere da domani per 3 giorni come sanzione. Ma veramente è così? Ma perché c'è una legge italiana che dice che nell'arco di 5 anni, se un esercizio pubblico o se un qualsiasi commerciante commette 4 volte un'evasione, che è la mancata emissione dello scontrino fiscale, sì, per 4 volte in 5 anni c'è la sospensione della licenza, che può essere da 3 giorni a un massimo di 6 mesi. Ma tu hai commesso per 4 volte in 5 anni, non hai fatto lo scontrino? 4 volte in 5 anni, che poi 2 volte abbiamo fatto ricorso perché c'era lo scontrino, era lì, solo che non l'avevano preso. Sì. Abbiamo fatto ricorso, ma non ci è stato accettato, quindi le evasioni sono diventate 4, per un totale di 20 euro e qualcosa di mancata emissione, che al netto delle tasse sono i 95 centesimi di evasione. Cioè, per cui i 95 centesimi sono le tasse che tu avresti dovuto pagare? Sì, esattamente. E sono tutte e 4 le violazioni? Sono in questi le 4 violazioni, sì, perché si trattava di caffè, quindi €1,85. Ma questo perché non hai battuto lo scontrino? Per dimenticanza? Perché poi alla fine grattando si riesce a sopravvivere? Oppure perché veramente... Ma non grattando, cioè non è che sto lì a evadere €1, cioè no, appunto, dico, lo scontrino di €1 è una cosa. E che è successo allora queste 4 volte? 2 volte c'è lo scontrino, era stato 2 volte fatto, c'era, va bene, solo d'accordo, solo che non hanno accettato questa cosa. La terza volta abbiamo fatto ricorso perché c'era un signore fuori che stava bevendo, non aveva pagato, ma la legge dice che l'atto della somministrazione bisogna mettere ricevuta fiscale, e una persona era fuori che fumava e beveva, quindi non posso dire a un cliente pagami prima di uscire. E la quarta? E la quarta è una dimenticanza o non l'avremmo fatto. Non so. Sì, può succedere, assolutamente, sì, può succedere, però mi pare assurdo che non ci sia un limite, cioè che ne so, uno può chiudere 3 giorni, perché poi per lei chiudere 3 giorni che cosa significa dal punto di vista economico? Chiudere 3 giorni prima di tutto vuol dire lasciare a casa, io ho 10 collaboratori con me, 9 o 10, bisogna lasciarli a casa per 3 giorni, quindi non percepiscono stipendio loro prima di tutto, sì, e dopo mancato guadagno per me, ma mancato introito anche da parte dello Stato. Ma non c'è niente da fare, cioè non c'è opposizione possibile? No, abbiamo già fatto ricorso, perché questo periodo risale dal 2007 al 2012, quindi sono 5 anni e tutto il resto è stato fatto ricorso dal 2012 fino adesso più volte, ma... Non c'è stato verso finché. Quindi lei ha i sigilli proprio? Cioè il suo negozio, il suo bar ora ha i sigilli, cioè lei non ci può entrare? Domani, da domani mattina verrà la guardia di finanza alle 6:30 della mattina, porre i sigilli davanti all'attività e io sarò lì davanti a firmare il verbale e nessuno può entrarci per nessun motivo. Come al Capone. Io dico, bisogna, ecco, come appunto, al Capone che gli chiudono l'esercizio commerciale o comunque gli chiudono l'attività, diciamo. Però io dico una cosa, no? Va bene essere inflessibili, cioè, se tutti quanti fossero ligi, probabilmente non ci sarebbe l'evasione fiscale, eccetera. Però ci vuole un minimo, dico anche un minimo di flessibilità. Cioè non è possibile che le leggi prevedano che se tu evadi in tutto 20 euro per un totale, poi alla fine di 95 centesimi secondo le regole fiscali eccetera, devi essere chiuso 3 giorni per 20 euro, paghi una sanzione. Questo come ho scritto tempo fa, non è la colpa del finanziere che mi ha fatto la multa, non è la colpa dell'agenzia delle entrate che mi ha commissionato questo, è la colpa delle regole, le regole che abbiamo che sono queste, perché alla fine tutti devono attenersi alle regole e quindi io non ho emesso 4 scontrini e stop, questa è la legge, le regole sono queste, bisogna sottostare a queste regole. Però a lei fanno un po' schifo queste regole, diciamo la verità. Appena appena un po' di più. Io ho 20 anni che ho un'attività commerciale, noi non lavoriamo 7 giorni su 7, compreso Natale, Capodanno, diamo un servizio. Cioè lei ha avuto altre grane fiscali nella sua vita, mi dica la verità, Proferio, non è che vogliamo difendere poi alla fine i criminali noi, cioè ha avuto altre grane fiscali, evasioni, cose, concordati, soldi all'estero. Non ho avuto nulla del soldi genere, Svizzera, avuto... che ne so, tutto. Sì, sicuramente, con un locale metti i soldi in Svizzera sicuramente. Va bene, Proferio, grazie. A domani. Ciao. E intanto a Napoli un commercialista cerca una segretaria con questo annuncio: richieste compiacenza, disinibizione e sensualità. Ti giuro, eh? Sì, sì. Cioè, un commercialista napoletano ha pubblicato un'offerta di lavoro per aspiranti segretari. Le qualità che devono avere, oltre naturalmente a eccetera, preparazione, è anche compiacenza, disinibizione e sensualità. Ma poi, capito, la commercialista cerca, non è che cerca una barista. Cioè. È l'ambiente dei maiali. Stefano Latina, vai. Stefano. Dimmi. Volevo dire che innanzitutto Caparo è uno stronzo. Subito, diretto. Subito. E Parenzo gli dà ragione anche, perché comunque io ho 25 anni, sono più di 2 anni, mi sono sposato e sì, da 15 anni che faccio il cameriere. Sì. Quindi da lì sono andato sempre a sedere, mi sono fatto un bucio di culo perché mi permetteva 10 euro a settimana per levarmi qualche soddisfazione. Questa è la lotta che hai fatto, non questa è la lotta. Mia moglie, sono 5 anni, ha studiato la prima magistrale adesso, e quando andava a fare i colloqui volevano contatti a progetto, ma con esperienza. E mi diceva, ma come cazzo faccio io? Sono appena laureato, come faccio a fare esperienza? E questa è l'Italia. E loro sono quei vecchi balordi che pensano che l'Italia non è dei giovani, solamente delle tasche loro, i vitalizi, tutte queste 50.000 euro al mese di pensione, vai, fate così tutti quanti così. I diritti acquisiti. E poi sono i giovani che non lottano, sono loro che hanno distrutto tutto, prima, con i diritti acquisiti, con le pensioni per tutti, con le pensioni, come dire, distribuite così, cioè senza, no, con l'ultimo stipendio, eccetera, eccetera. Matteo Modena, grazie Stefano. Matteo Modena, vai. Oh, ma ce ne fosse uno. A parte Parenzo che dice che Capanna c'ha ragione, perché no, io ho detto non che c'ha ragione in assoluto. Sui giovani ha detto che c'ha ragione, ha detto la cosa più vergognosa sui giovani, più vergognoso del 10%, devo dirti la verità. Ho detto che sui giovani ha detto un'altra cosa, se mi dai un minuto, 40 cosa? Secondi abbiamo Matteo fatto Modena, meno male che scherzi, va, ti rifugi nello scherzo. Matteo, no, vai. No, su quello ha ragione. Hanno distrutto l'Italia, vabbè, loro con i diritti acquisiti. Quando dice che comunque i giovani devono prendersi mano il loro futuro, se ci sono delle leggi vergogna, ma sono parole al vento. Devono fare, non è che devono aspettare che cambi qualcosa. Cioè, se i giovani considerano giustamente come essere pagati 10 euro all'ora per lavorare non so dove, o ancora meno che 10 euro all'ora, devono fare qualcosa, non è che devono accettare di essere pagati in nero. Questo lui dice, non ha detto esattamente questo Matteo da Modena, questo lo sai, ma non è vero. Se Parenzo sta buono un attimo, gli do anche ragione per una volta. Vai Matteo, vai. No, io telefonavo per questo, cioè io ho 28 anni e devo dire che la situazione adesso, partendo dal presupposto che politicamente non appoggio Capanna per niente, ma la situazione purtroppo è quella, io lavoro con i giovani, ci lavoro a contatto nel mio lavoro, ci lavoro a contatto con un'associazione, ho 28 anni e sono uno di quelli che si sbatte, ma per ognuno che si sbatte ce ne sono 10 che non fanno una mazza, ci vedo i miei amici che... Sì, ma non voleva dire questo Capanna, non voleva dire però, questo. Però un attimo, ci arrivo anche quello, cioè effettivamente i giovani d'oggi non hanno coscienza politica, non si informano, sono quelli questo che dicono male che non ce l'hanno, che nessuno li rappresenta. Beh, come, no, ma non hanno coscienza, cioè non guardano neanche il passato, cioè non fanno male. Niente per informarsi, alla fine cioè si lamentano, è vero che c'è tanta gente che dice... Sì, però Matteo, non ho capito bene, qui Capanna ha voluto dire un'altra cosa, qui, cioè ha detto che i giovani non avranno la pensione, o possono non avere la pensione, perché non si battono per cambiare questa cosa, omettendo un piccolo particolare, che questo sistema pensionistico di cui lui usufruisce come vitalizi dalla Camera e dalla Regione Lombardia, questo sistema l'hanno creato loro, è vero, no, per cui di che stiamo parlando? State parlando di un'altra cosa, non parlate di parole, la lotta, i giorni, cose che poi nel concreto non significano niente, perché c'è gente che si fa un mazzo così dalla mattina alla sera, partite IVA eccetera eccetera, che non sono considerati da nessuno, soprattutto da questo governo. Farsi il mazzo, cioè lottare, non è solamente farsi il mazzo, lottare e anche ogni tanto prendersi una giornata dal lavoro, non per guardare la finale di Champions, ma come no, ma certo, così, per andare in piazza a protestare. Ma quale piazza? La piazza a grattarsi i coglioni, ma dai, su. Ma quale piazza? Bravo, bravissimo, hai ragione. Donato, sì, la piazza. Parenzo adesso gli piace la piazza. Donato moltissimo, da Como, c'ha tempo manco che piagna la piazza. Donato, io, Como, vai. Io, vai, Donato, quando Como. Posso vado in piazza. Ma dove vai in piazza? In piazza a mangiarti gelato, vai. Dai, Donato, Como, vai. Io vado in piazza. Sì. Volevo dire una cosa sulla frase dei Rom prima, ma adesso mi avete acceso un altro campanello. Io ho avuto attività. No, ma vai sui Rom, vai sui Rom un attimo. Andiamo sui Rom, concludiamo va in bellezza, vai, vai, Donato. Ma cosa mi rappresenta avere un senso, cioè la gente che ha dei pregiudizi praticamente deve praticamente subire le insulti di gente che non li ha. cioè non me lo sono inventato io che dalla mattina alla sera questi combinano un casino dopo l'altro, cioè non sono io che ho i pregiudizi, sono loro che fanno cazzate da quando si alzano la mattina a quando vanno a dormire la sera. I pregiudizi, tu dici, non sono di quei diciamo degli italiani, insomma, dei cittadini che non sono rom, ma sono i rom che creano i pregiudizi. Vabbè, con questa massima di Donato da Como chiudiamo questa sera, ci sentiamo domani 18:30 tranquillamente e serenamente. Io mi confermo stasera che nella mia vita, adesso che ho 53 anni, sono stato uno stronzo nell'aver creduto a Mario Capanna, ma come sono stato stronzo a credere che questo ci avesse dato un'Italia diversa, uguale, sono stato uno stronzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Silenzio, senza interruzioni. Radio 24. La passione si sente.